Ok, iniziamo allora. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Alle 9:36 con un tempo accusì, direbbero a Napoli. Anche qui. Ecco, che ci, secondo me però che crea le condizioni per stare molto concentrati dentro l'aula perché fuori non c'è niente da vedere con questo tempo. Allora, è trascorsa una settimana, più o meno, da venerdì a venerdì. Com'è andata? Come state? Bene, sto bene. Dobbiamo proprio raccontare giorno per giorno. No, Per annoiare. guardate, sembra, faccio da un passo in avanti facendo una riflessione apparentemente fuori dai nostri temi, ma prendete in considerazione quanto di solito noi non siamo più abituati e non abituiamo i nostri interlocutori a chiedere come stai. A proposito di sistemi di comunicazione, no? Prima si parlava del WhatsApp, i mezzi di comunicazione ci hanno abituato a una velocità così importante, no? Che noi comunichiamo tendenzialmente chiedendo a chi che sia, dove sei, dove stai. Che stai facendo? Che stai facendo e dove stai? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao, ciao. Per poter ricevere le indicazioni, le coordinate, sto qua, sto a fare questo. Perché vi dico questo? Perché chiedere alle persone come stai, come ti senti, è una buona abitudine. Non lo dico solo per noi, lo dico anche nella nostra vita quotidiana, ma anche nel nostro lavoro. Sapete perché? Perché non soltanto tra le persone, noi, ma soprattutto nei luoghi dove si vanno a incontrare persone che non si conoscono o si vedono per prima volta, poter confrontarsi e abituarsi a dire mi sento così, oggi mi sento così, oggi sono così, oggi così. E dire, tirare fuori un'emozione è un'abitudine che si sta perdendo e che è utile per creare anche un clima di comunicazione utile, se vogliamo, ai nostri interessi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Fatto culturale e qua in Italia, perché non lo so, sono dopo questi esempi per farmi capire. In Tunisia, dopo il buongiorno, si dice Shnu Ahwel, che vuol dire come stai, subito. Quindi è un fatto. E poi ti va a parlare di dove sei, che fai. Invece, quando sono arrivati i primi tempi qua, che mi chiedevano subito dove sei e che fai, mi sono rimasta un po'. Ma anche in francese, ça va, è Ça va, quello, sì. sì. Come Guarda, ciao, però bonjour, comment allez-vous? comment allez-vous? Prima di dire ça va, credo che non temo di sbagliare, se affermo, cioè, anche nelle lingue, in buona parte delle culture del mondo, assumendo che esistano le culture in toto, no? Come cose uniche e definite, in ogni parte del mondo c'è l'abitudine, di chiedere, ma così come c'è l'abitudine, il dato culturale che il momento attuale ci pone davanti agli occhi è la disabitudine. Guardate, fare questo è un gesto che mia madre non avrebbe riconosciuto, cioè in che cosa significa strisciare una superficie. E Steve Jobs e tutto quello che ne ha comportato la tecnologia ha creato, no, un modo, una modalità di fare che a noi ci sembra normale, perché insomma siamo talmente abituati, no, a mai fare questo piuttosto che questo, che non ci prestiamo attenzione. Invece quello è un dato culturale che ci abitua a fare delle cose, e ci disabitua a fare altre, ad esempio, no? Scrivere. Se un adolescente riceve una lettera scritta da un genitore, credo che si sorprenderebbe perché ha perso l'abitudine se mai l'avesse acquisita. Nello stesso modo le parole. E perché poi, che cosa ha a che fare questo tutto sommato con l'inizio di questa nostra interlocuzione di questa mattina e poi col nostro lavoro? Che noi andiamo a intervenire a interagire con persone che saranno in una situazione di relazione, e noi per entrare in relazione con loro, noi abbiamo due cose: il modo, dunque l'emozione anche che siamo capaci di creare, e uno strumento fondamentale che sono le parole. E a proposito di parole, chiedere alle persone come ti senti non è un atto formale, e anche darci la possibilità a noi, ma anche a loro, di aprire, di incominciare a aprire i territori emotivi dove si trovano. Le persone siamo tendenzialmente diventati analfabeti emotivi. Ma se... questo, scusami se ti interrompo, questo è da tenere presente, perché tra amici, tra persone che ci conosciamo, in una relazione si dice buongiorno, ciao come stai, al telefono ciao come stai, ma quando siamo al lavoro e viene l'utente non si dice, che è un altro ufficiale, e nella modalità voi andate in banca, buongiorno allo sportello, non vi chiede come state, no, perché è ufficiale, no. È un rapporto ufficiale. Quando viene allo sportello della riabilitazione o va andata al materno infantile o a servizio della salute mentale, buongiorno e chiedete la prestazione, o l'infermiere che sta all'accoglienza, buongiorno, di cosa avete bisogno. Il come stai è quando c'è una relazione familiare, comunque insomma domani ci possiamo incontrare al mercato, qui ciao come stai viene naturale. Nel contesto di lavoro invece, nel contesto di lavoro invece no. Forse tu stai chiedendoci che nel contesto di lavoro inserire il come stai. Sì, adesso oggi di inserire, di valutare di inserirlo, io lo consiglio, ma non come una raccomandazione di buona educazione, guardate bene. Quando parlo, noi oggi andiamo a esplorare proprio questi temi, ma stiamo entrando proprio dalla finestra di una cosa che invece verrà esplorata insieme, verrà aperta insieme. Perché noi andiamo a atterrare, poco prima delle due spero, in quello che è un approccio che secondo me vale la pena tenere in considerazione dal punto di vista operativo, e che noi abbiamo chiamato micro relazioni. La parola micro e la parola relazioni vi dà già qualche cosa nell'orecchio, secondo me, no? Cioè il micro è l'idea della relazione, e la relazione è intimamente legato al come noi siamo in interazione con l'altro. Anche questo, se vi rimanesse insomma nell'immaginario, nella vostra testa, sarebbe tanto di guadagnato. L'interazione la esploreremo oggi, ma ricordatevi ogni volta che vi viene in mente questo mio gesto, che ogni volta che noi siamo in, faccia a faccia, o ci confrontiamo con una persona conosciuta o sconosciuta, nuova a noi, insomma con l'altro, con l'alterità, sia maschio, femmina, autoctono, straniero, abile, disabile, omosessuale, l'altro, noi non siamo meramente attori, ma siamo anche prodotto di quello che avverrà. Dunque non è un ping pong di parole o di emozioni. E dunque le parole, come usiamo le parole, come costruiamo le parole, e la capacità di far sprigionare, se vogliamo, far uscire da quelle parole la loro carne, come diceva Merleau-Pontino, la loro energia, la loro emozione, fa parte anche, secondo me, di questa strategia, di questo approccio, che ha utilità operativa nell'immediato, è funzionale, secondo me, ma soprattutto è lungimirante. E qui incominciamo il nostro incontro. È lungimirante perché una cosa che avrei voluto dire in aula l'altra volta, e magari in secondo livello perché ci vuole, però ce lo dicevamo in una chiacchierata che avevo con la dottoressa Storti, come uditrice del corso, non sono qua con Giovanna Storti, l'altra volta si parlava insomma di alcuni temi, e in un momento determinato ne è venuto fuori la parola lungo termine. Io inizio da questo. lungo termine. Ah, oggi ci sarà questo e al completo, dunque, come al solito, se vi è utile qualcosa scrivete, se no trovate tutto qui, anche i riferimenti bibliografici. Lungo termine, perché mettere a fuoco un modo di fare, in questo caso la mediazione, ma dico di più, una idea di relazione, di stare in relazione, di interagire con l'altro, perché? Perché? Vabbè, perché? Perché da qui a poco Pending ci metterà nelle condizioni, credo, insomma, di fare due o tre cose operative, un numero verde, mi pare, no? Qualche altro intervento diretto presso gli ambulatori, affiancando gli operatori del sistema sanitario. E altro, non lo e so. Gli operatori del CASESPRA. E gli operatori del CASESPRA. Dunque, tre cose. Un, due, tre. Dunque, è chiaro che nell'immediato, da qui a un mese, due mesi, tre mesi, per X tempo, no, queste persone, o tutte, o una parte di queste persone di voi, faranno una roba. Andranno a fare delle cose. A, B e C. Con 5, 10, 15, 100 persone, non lo so. Ok? Dunque, ci serve. Tant'è che la rada, benissimo. Dunque, se pensiamo a farci di strumenti da modo di fare per impiegarli e dispiegarli, no? Dispiegarli nell'immediato, benissimo, ci serve. Ma guardate bene, se noi invece entrassimo a dialogare col futuro, ma futuro non dico un anno, due anni, cinque anni, 10, 20. Se noi incominciassimo a mettere nella nostra tasca, no? Nella nostra cassetta degli attrezzi, ma dico di più, nel nostro modo di agire e di essere, cose, attitudini e modi di fare che ci servono non nei prossimi sei mesi, amici miei, ma nei prossimi vent'anni, nei prossimi 40 anni, andiamo a futurare, non esiste il verbo futurare, me lo sto inventando adesso, ma se dovessimo oggi, no, incominciare a prendere in considerazione cose, a imparare a fare cose che ci possono servire per dove vorremmo trovarci o come vorremmo trovarci e come vorremmo vivere, ma tra 20 anni, tra 40 anni, allora che cosa ci serve? Adesso ci serve che cosa? Imparare la normativa, benissimo, nei sei mesi vicini, nel prossimo anno ti serviranno. No, cambieranno. Può darsi, però poi tra un anno ti trovi a ripetere, benissimo. Ma imparare o mettere a fuoco un nuovo modo, un modo alternativo di essere. Che idea ho dello stare insieme? Che idea ho dello stare insieme? Non dello stare insieme nel mio lavoro di mediatore culturale, che benissimo, nel prossimo anno, insomma, lo metto a fuoco. Dopo, qual è l'idea? Che cosa mi serve per vivere e per campare, per stare in relazione con chi che sia? Che cosa mi serve? Modi di essere, modi di fare, modi di pensare. Un'idea politica, etica, se vogliamo, anche delle cose. Dunque, secondo me, varrebbe la pena, utilizzando anche questa occasione, di iniziare a futurare, prendere qualcosa di quello che ci diamo adesso, nell'immediato per lavorare per Pending, benissimo, ma prendete in considerazione che buona parte di quello che ci stiamo dicendo può aiutarci a avere, modificare e sviluppare un modo di essere che ci serve per stare insieme. A chi? Su fatti vostri. La vostra famiglia, il vostro lavoro, la vostra comunità, l'idea di società. Facciamola crescere, l'idea di sistema. Dunque, noi stiamo parlando sì di comunicazione interculturale, ma la comunicazione interculturale non serve soltanto per il lavoro di 20 mediatori culturali. Serve per essere, secondo me, avere, sviluppare un'idea di persona che sta in relazione con altre persone. L'ho detta sufficientemente compresa? No. E dunque, oggi, come abbiamo fatto l'altra volta, continuiamo la nostra esplorazione. Noi devi sapere, Giovanna, che abbiamo esplorato, abbiamo aperto una serie di parole, vi ricordate? Abbiamo esplorato che cosa significasse comunicazione e al netto, e siamo arrivati, a qui, no? Insomma, abbiamo parlato un po' di umanesimo, abbiamo esplorato che cosa significasse comunicare. Ma non stai bene, ti viene un bel torcicolo. Siediti un po' più là, secondo me, cioè tutta storto. Noi abbiamo esplorato con l'aiuto di queste persone che sono già in relazione, che fanno già questo, no? Buona parte di voi fa anche questo di lavoro, insomma, stare in relazione e provare anche a negoziare con gli altri dell'informazione. Questo per lavoro, ma al netto dei presenti tutti, una cosa che facciamo sempre è stare in relazione, sempre, e di fare quotidianamente incontri. Solo che abbiamo detto, poiché lo facciamo sempre, non è che lo stiamo facendo solo in quest'aula, come ci svegliamo la mattina, incontriamo le persone, io incontro mio figlio, poi entro in cucina, incontro mio marito, esco di casa, incontro il controllore della metropolitana, siamo fatti di incontri dalla mattina quando ci svegliamo fino alla sera quando andiamo a dormire. Soltanto che, poiché lo facciamo sempre, poiché siamo sempre a fare questo, stare in relazione, non gli diamo importanza, cioè non ne prestiamo attenzione, è come respirare. Io vi ho detto, raccontato che sto provando a uscire una polmonite, no? E solo per questo evento ho avuto modo di mettere a fuoco come respiro e come si sente il mio corpo quando mi manca l'ossigeno. Ma mi deve succedere quello. Ah, ecco, è così che respiro, dunque se mi manca l'aria sto un po' male, no? Deve succedere. Lo stesso, siamo sempre in relazione e non facciamo caso. Ma poi succede che qualcosa nella relazione non va male, non va bene, e l'altro ci fa capire, come nel caso della mia polmonite, che qualcosa non è andato bene. Io ti dico ciao, buongiorno, tu non mi rispondi, e io eccoci. In quel momento penso che sia successo qualcosa. La tua non risposta mi fa immaginare che qualcosa nel nostro incontro e forse nella nostra relazione sia cambiato, no? Deve succedere quell'evento, si chiama lo shock. Cohen e Merrick l'avrebbe detto lo shock culturale. E che succede? Perché non mi sei arrivato? Perché sono pervertito, perché sono donna, perché sei arrabbiata, perché non ti piaccio. Si fa un film, no? E supposizione. Ok, abbiamo detto dunque, lo dico a guardo Giovanna perché lei non era presente, ma se vi ricordate noi abbiamo messo a fuoco questo, che quando uno degli eventi che accade quando si sta in relazione, cioè, e si comunica, è, come direbbe Balboni, scambiare messaggi vincenti, cioè stare dentro una relazione, essere in relazione. Pensate che relazione ha la stessa etimologia di religione e di religere, legare. Legare significa essere in relazione, no? Con una corda invisibile, con un laccio invisibile, legarmi a te. E in questo scambio noi scambiamo, in questo stare in relazione, quello che si scambia sono parole e non solo, abbiamo detto, gesti, toni, movimenti, quello che si chiama verbale, non verbale, visivo, paraverbale, no? Che stanno per significati, dunque noi scambiamo significati cercando che l'altro abbia una idea e faccia dia un senso compiuto. Scusate, quello che abbiamo iniziato, no? E dunque, stando al netto di quello che è comunicazione, noi ci siamo attardati. Ecco, sì, è più dritta. Però giustamente dicevamo che la nostra attenzione si è fermato nell'importanza di nella moneta di questo scambio. Che cosa scambiamo? Significati. E dicevamo che il significato è intrinsecamente legato, intrinsecamente vuol dire che è da dentro, profondamente legato. Ricordate, con il contenuto che noi diamo al significato. Devi sapere, Giulio, che noi abbiamo identificato in qualche modo, figurativamente, le parole, vi ricordate, no? Sì. Questo sta in relazione che ci mette scambio, che nella quale insomma, scambiamo significati, ci mette nella necessità di utilizzare parole. Parole, e le parole sono questo. Scatole vuote, direbbe Pirandello. Sono vuote, e sembra brutto dire che le parole sono vuote, ma le parole sono vuote. Le parole sono significanti, vi ricordate? Dunque sono la pelle esterna, la pelle, no? Ma la carne delle parole, il significato delle parole, lo diamo ognuno di noi, lo dà ognuno di noi, vi ricordate? Di conseguenza, quando scambiamo parole, le parole e il significato che queste assumono saranno una proprietà, apparterranno a chi le ascolta. Le parole non sono da chi le dice, ma da chi le riceve. Perché? Perché il significato che le persone danno alle medesime parole può essere assolutamente differente o anche diverso, contrastante, paradossale, cioè può essere un altro. Abbiamo fatto degli esempi, vi ricordate, non voglio fare la ripetizione, ma abbiamo iniziato a questo, vi ricordate, il vostro albero? Tutti noi sappiamo cosa sia un albero, ma poi abbiamo provato a disegnare ognuno di noi albero, e non c'era un albero che fosse uguale. Ma questo non è uno scherzetto, non è un gioco, un elemento che ci ha accompagnato, spero, e che voi possiate ricordare, e che se dovessimo fare un albero ai 7 miliardi e mezzo di abitanti sulla faccia della Terra, ne risultano 7 miliardi e mezzo di alberi. No? Ok. Questo per dire che pur conoscendo la stessa parola, il significato è la immagine che abbiamo dell'albero, la immagine può essere completamente differente, ma anche diversa. No? E questo per l'albero. La posta in gioco diventa altra se noi, ad esempio, diciamo casa. No? E facendo l'esempio, se questa parola la usa lei, che accompagna nella funzione di mediatore culturale Giulio, che è un utente del CAS, e anche Giulio porterà la sua parola a casa e la sua idea di casa, e lei che è la dirigente, no, del comune e che deve definire un dato percorso, che anche la sua parola a casa. Non vi sfugge che la parola casa è intimamente legata, ad esempio, con l'idea di accoglienza, no? Allora, quando Giulio pensa a casa, lui è arrivato al porto di Salerno l'altro ieri e si deve immaginare un percorso di inserimento e via dicendo, innanzitutto un percorso di accoglienza. Qual è l'idea? Quando lui pensa a casa, no? Tutti sappiamo, quando lui pensa a casa, che cosa pensa? Casa sua. Le mura, casa sua, ma casa sua in che senso? Cosa è casa sua? Le persone che stanno dentro, la mia. Sicurezza, dunque un'emozione? Quando lui cerca casa, a che cosa sta pensando? Che cosa immagina? Qual è la sua casa? Lui, quando pensa a casa, e dunque pensa alla casa che è buona per Giulio, e magari da mediare assieme a lei e a lui, a che casa pensa? Pensa alle mura di una casa pulita, luminosa e col giardino? O pensa alla casa dove si mangia insieme, dove si è rumorosi, dove si sta in tanti? qual è la casa che lui ha in testa? È la casa che l'istituzione ha in testa, dunque l'accoglienza. Una casa, appunto, una casa dove stare, o è la strada, o è dentro o è fuori. Capite che questo, noi non siamo, l'ho detto l'altra volta, noi non siamo in un percorso, no, a studiare grammatica o semiotica, no? Il semiologo è colui che studia le parole. No. Noi sappiamo che mettere, capire che cosa ci sta dicendo l'altro, che cosa vede l'altro quando utilizza quelle parole e che cosa eventualmente dobbiamo mediare, tradurre, trasmettere e non tradire. E non tradire, perché se la sua idea di casa e di conseguenza accoglienza è un posto dove non stare mai solo, dove stare insieme, dove vivere con la idea che lo permeava in casa. Ma in questo momento possiamo dire che Giulio ha un'idea strutturale della casa o un'idea funzionale? La casa, la idea che Giulio vale la pena se quella. La idea che Giulio ha della casa, immaginiamo, no? Questa è la casa di Giulio. Ed è questa. È sempre casa. E ha a che fare con la struttura e con quello che c'è dentro la struttura. La idea che ha lei di casa, ma lei deve decidere che percorso suggerire a Giulio e farsi sostenere dal suo intervento, è sempre casa, ma è questa, e magari è fatta di altre cose, anche strutturale e funzionale, è sempre una casa che non può prescindere dalle mura, immagino, ma dove, come, con chi, a fare cosa. Capito? Insomma, è un cosa, ma anche come questa casa è riempita di significato. E altrettanto per lui. Perché vi dico questo, amici? Perché vedete, sarebbe una cosa, ognuno ha il punto di vista suo, come li vede quella cosa. Sì, come sì. Per questo qui c'è una grande possibilità di ricerca, di apertura, di mediazione, se vogliamo, che non può prescindere, che prevede assolutamente, amici miei, la domanda. Noi dobbiamo chiedere. Noi, ricordatevi, noi non possiamo dare per scontato che l'altro stia vedendo la stessa cosa che vedo io. Vi ricordate il nostro, questo esercizio, no? Per qualcuno era confuso, per qualcuno era bellissimo, ok, ognuno di noi ha un'idea del mondo, diventa un problema quando pensiamo che quello sia il mondo. E quando diamo per scontato che l'altro stia vedendo esattamente quello che vedo io, anzi, non soltanto diamo per scontato, ma andiamo a confutare, a difendere la nostra posizione. Ma come vai a dire che questa cosa è bella? Ma va proprio schifo sta roba, no? O al contrario, no, ti metti di qua e dici, ma guarda, ma questo è proprio il dialogo interculturale, una grande bellezza, sei tu che sei molto rincitrullito, non hai capito niente. Ci mettiamo a fare braccio di ferro perché abbiamo la tendenza a dover vincere sempre qualcosa. Vi ricordate, vinco io se muori tu, cioè quello che vedo io è la cosa giusta. Succede lo stesso con questi significati. Dunque, immaginiamo casa, immaginiamo salute, immaginiamo urgente. Perché vi dico questo? Perché noi ci possiamo confrontare, e vi confronterete sicuramente, con persone che davanti a una situazione di salute o di cura vi potranno presentare la parola è urgente, devo far così, devo fare mo. Magari il dolore ai denti può essere che è una cosa molto terribile. E magari la parola urgente, no? La parola urgente che il medico ha per sé vada all'infarto e poi. Dunque un mal di denti non è urgente, non c'è bisogno che tu venga dal pronto soccorso, perché non è urgente. Dunque il medico arriva e può arrivare anche a interagire in modo magari anche aspro, magari anche infastidito. Dice, ma mamma, che ti senti sintesi per un mal di denti, ma vai là, vai, mi fai perdere tempo, c'ho 20 persone là aspettare fuori nell'accoglienza. Allora prendervi in giro, ma voi non capite nulla, e si inizia con delle categorie. Dunque, che cosa intendi per urgente? Che cosa intendi per la domanda? Fare domande ci confronta anche con la situazione che si va a creare. Fare una domanda significa poi mettersi dopo uno nella condizione di ascoltare, che non siamo abituati ad ascoltare, come ascoltiamo? Siamo tendenzialmente molto più abituati a dare risposte che ad ascoltare. E dunque uno, sappiamo ascoltare, dopodiché dobbiamo avere la pancia, l'animo, il radicamento, no? Grounding, il radicamento, stare con i piedi per terra, di mettersi nella disposizione anche che l'altro ti dica esattamente una cosa contraria a quella che tu pensi, e mettersi nella disposizione a quel punto di creare una soluzione, di immaginare insieme, scusate, sono anche per l'amore, in modo dialogico, una soluzione alternativa, una possibilità alternativa. Aprire una domanda e mettere in conto che l'altra persona non ti dica sì, ti dica no, non mi piace, non fa così, no? Ed è una botta per l'autostima, dici, ma perché diventa una fatica. Ma chi l'ha detto che è semplice? Non è semplice. Non è semplice. Bene, e vi dico di più, e cominciamo ancora a pensare il brodo. Vi dico di più. Noi siamo in tempi dove sta qui? Ma no, questo è molto più avanti. Non so se sto andando avanti o indietro, sapete? Indietro. Sì, eh? Ecco. La tachipirina. Avanti, no, adesso l'abbiamo fatto. Sì, sì, sì, volevo riprendere da questo. E riprendendo da questo, perché ci collega al momento successivo. Questa questione di lei. Si sente? No, è scomodo. Ah, no, no, non fa niente. Dunque, mettendo a fuoco che quello che noi facciamo quando siamo in interazione, in relazione con l'altro, è scambiare significati, abbiamo detto che dobbiamo tenere in considerazione che il significato può essere assolutamente diverso da persona a persona. Lo dobbiamo mettere in conto, ed è una buona occasione quella di scoprire mediante la domanda. Vi dico anche di più, perché è utile scoprire, perché è utile domandare. Vedete, viviamo in un momento storico, questo è un momento storico particolarmente caratterizzato dall'uso della comunicazione delle parole, molto più di prima. Non che questo non sia successo prima, ma in questo momento molto di più. E sta accadendo in questo momento storico che l'utilizzo delle parole in modo molto acuto, molto utile a alcuni intenti, è molto simile all'uso che si dà a uno strumento che, mannaggia, mi sono dimenticata di portarlo, a uno strumentino che si utilizza durante la caccia. Qualcuno di voi ha mai visto il fischio per cani? Sì. Sì. È una specie di cosetta che lo conosci? Lo conoscete? È un fischietto come fischietto, però che le persone non sentono. Fai così, lo sente solo il cane. Lo sente solo il cane. Vedete, amici, ci sono parole che hanno la stessa funzione di fungere come fischi per cani, cioè che ci sono delle parole che alcune persone, solo alcune persone sentono. E come succede nel cane, risveglia il cane, no? Reagisce. Lo fa reagire. Cioè, di che cosa sto parlando? Se io dico noi, noi, se io dico patria, se io dico siamo noi, siamo una famiglia, se io dico questo, la parola noi, non ci vuole, in ognuna delle persone di questo gruppo questa mattina, no, vi farà immaginare, no? Vi farà immaginare una serie di cose. Voi riempite la parola noi di una serie di cose. La parola noi, in questo momento storico, in molte persone, in alcune persone, fa pensare altro. È un noi che dice un gruppo di qua e dunque un loro di là. Quando uno dice famiglia, noi pensiamo una serie di cose. Ci sono un gruppo di persone che alla parola famiglia, con un fischio per cani, pensano la mia famiglia e il resto, ecco, il resto. Ed è così che agiscono i populismi. La minaccia, la sicurezza. Noi dobbiamo proteggere la sicurezza. La parola sicurezza, con un fischio per cani, nella testa di alcune persone agisce e sveglia il cane dentro e fa pensare altro, ai loro significati, alle loro paure. E le paure possono anche creare altre emozioni, altri sentimenti. E dunque, come disinnescare questo? A quantomeno indagandolo, esplorandolo. Che cosa intendi? Che cosa capisci tu per questo? Per me casa è questo, per te? Per me urgente è questo. Per me cattivo è questo. Per te? Non è un esercizio semplice. Ancora di più che l'esercizio, questa situazione, vi troverà, vi potrebbe far trovare con persone che hanno sia una cultura per provenienza etnica e geografica, ma anche professionale, ma anche di status, ma anche di altro, di genere, eccetera, che potrebbero sorprendentemente avere idee o uguali o contrastanti. Cioè, non diamo per scontato che quello che le parole che stanno a significare la nostra comunicazione sono uguali per tutti i presenti. Siamo? Dunque, ricordatevi di fischi per cani, di fare attenzione ogni volta che vi incontrate in una situazione, anche di lavoro, soprattutto di lavoro, di verificare se le parole hanno un humus comune, no? Cioè, sono più o meno, insomma, si possono lavorare in un gruppo di persone, o se per qualcuno agisce come un fischio per cane e sta pensando un'altra roba, ok? Rispetto. Perché vi dico questo? Come esempio proprio in ambito sanitario. Cosa può significare sentire da operatore sanitario o da utente, ma anche da mediatore, ma concentriamoci su questi due, l'operatore e l'utente, che cosa può significare una mancanza di rispetto? Che cosa può significare? Per me magari che non mi guardi negli occhi. Nel modo di parlare. No, nel modo di parlare, per me operatore sanitario. Dici, ma quello, ma però non me la racconta giusta perché manca mi guarda negli occhi. Può essere perché per me guardare negli occhi, parlare in un modo chiaro e rispondere significa una questione di considerazione del rispetto. Per me. Magari per me è esattamente il contrario. Avere considerazione e rispetto è stare chino con gli occhi abbassati e semplicemente annuire e accogliere qualsiasi cosa mi venga detta, io la capisco o non la capisca, magari per me è così. E allora ci rendiamo conto che la stessa parola può provocare in questa situazione uno scambio dove si crea poi, intanto non c'è una relazione, se c'è una relazione che provoca emozioni deficitarie, no? Crea una, non la cura cambia la relazione di cura, il modo nel quale si sta a contatto. A che cosa intendiamo? Che cosa è? Come mi rapporto poi con un utente che sento mi manca di rispetto, che non ha considerazione? E viceversa, come mi rapporto con un dottore, con un operatore sanitario che mi fa sentire altrettanto poco considerato e poco rispettato? Che codici sto utilizzando? Ci siamo? Detto questo, arriviamo. Un'altra volta sto facendo. Ah, ok. Noi abbiamo detto, Giovanna, cosa che non avete fatto voi, che abbiamo seguito un altro percorso, penso, con voi. Che avremmo esplorato esattamente il titolo del nostro incontro. Vi ricordate? Comunicazione interculturale e microrelazione. Abbiamo esplorato comunicazione, passando per significato, significante e le parole. Adesso andiamo a esplorare che cosa significa questa parola, e lo faremo nello stesso modo che abbiamo indagato l'altra volta. Nello stesso modo che abbiamo indagato l'altra volta, e che a tutti gli effetti è uno spediente che utilizzo con qualsiasi gruppo. E lo dico, e mi fa piacere che ci siano Giulio e Giovanna, che con ruoli differenti rappresentano in qualche modo, rappresentano a tutti gli effetti sono rappresentanti, insomma, di una serie di interlocutori che voi avete incontrato, insomma, che il cittadino incontra, no? Il terzo settore e il servizio pubblico. Dunque, organismi che decidono, in alcuni casi decidono e disegnano gli interventi, dunque c'è una dimensione anche politica, se vogliamo, dell'attuato, ma sono anche il sistema, e Giulio che rappresenta anche un interlocutore intermedio che anche fa una prassi, ha anche una dimensione politica questo intervento, ma è molto operativo, no? Un interlocutore del è un esecutore, un esecutore, perché viene accreditato, e quindi la parte non esecutore nel senso, ma nel senso operativo, certo. Cioè l'operatività, cioè io ASL o costruisco un piano terapeutico, il terzo settore lo realizza, certo. Dopo averlo condiviso chiaramente con il mio. È inutile che vi sto a dire dove, come, quando, perché se vuoi dire la cosa. Ci sarà tempo. Ci sarà tempo, però insomma, alla fine noi rileviamo un bisogno per il paziente da dover realizzare, si costruisce un piano terapeutico insieme agli operatori che lo andranno ad eseguire e dopo ci si confronta. Questa, diciamo, ufficialmente la prassi pubblico terzo settore. In questo momento pubblico e terzo settore si sono confrontati e hanno concordato un progetto per la realizzazione degli interventi a favore degli ospiti dei CAS e SPRAR, e quindi utilizzando degli operatori voi. Io integro questa definizione, queste caratteristiche del soggetto operativo, senso si chiama così in abruzzo, cioè il soggetto operativo, e introduco la parola politico perché è il modo nel quale il soggetto fa possibile che tutto questo avvenga, può fare la differenza, no? Certo. Come loro, come la RADA, cioè, perché la RADA potrebbe decidere che i mediatori culturali si devono imparare la memoria della Costituzione, si devono vestire tutti di rosso e devono andare a fare questo, ma è un modo, è un approccio, è un modo che qualcuno lo fa, insomma. E loro decidono di fare un percorso così, insomma, dialogato, pensato, però è un modo di fare, un come fare questa resa operativa. Perché dicevo questo? Perché mi fa piacere che loro siano presenti? Perché quello che ne segue è un espediente, cioè vuol dire è un passaggio che io ho fatto fare, non avete idea quante persone ho fatto fare, ho proposto a tantissime persone, persone come voi, persone che sono nell'ambito sanitario, colleghi, pari, o dirigenti, o politici, o insegnanti, o poliziotti, o ragazzini, cioè perché l'interesse era sapere e sapere da dove partiamo, qual è l'idea che le persone hanno, qual è l'idea che abbiamo noi di cose, com'è? Come in questo caso, no? Come le parole, di cose che fanno già parte della nostra vita lavorativa o della nostra vita. Dunque, a me interessa, per essere utile, a me interessa partire da quello che voi sapete, da quello che noi sappiamo, da quello che noi crediamo o immaginiamo. Altrimenti mi porterei una dispensa e vi direi: guardate, questo è il libro della legge, questa è la verità, imparate, recitate. Diffondete. E diffondete il verbo, ecco, siamo pure a Pasqua, si sta. Non è questo. Cioè, io per essere utile devo partire da dove siete voi, da dove siamo noi. No, ma è stato bello anche, ad esempio, il significato delle parole ci ha dato questa spiegazione, ci ha dato anche un modo di riflettere per come vediamo le cose, che ognuno ha il punto di vista su una cosa, su una parola, su una cosa come. Bene, ma bene. Poi la cosa importante sono le cose. La cosa importante è condividerlo in un contesto, in modo che, visto che saremo la squadra che lavorerà, quindi scambiare, avere esperienze, avere coscienza, contezza del fatto che condividiamo un'esperienza insieme, per cui quando andiamo a riflettere sulla nostra comunicazione è già un'autostrada, nel senso che già sappiamo di che cosa parliamo. Quando poi ci troviamo ad essere operativi e ci confrontiamo sull'operatività, sulle eventuali problematiche che emergono, ci intendiamo. Ecco la mia partecipazione e quella di Giulio al corso anche come uditori, per poter uniformarci nella comunità. Non sarà possibile uniformarci, insomma, ma per poter avere questa comunione di percorso, sì. Che è utile alla nostra attività lavorativa. Sì, la stessa linea. E comunque, perché siamo tanti, siamo diversi, come diceva lei, maschi e femmine, nazionalità diverse, religioni diverse, percorso diverso, insomma, per cui, però condividere un percorso formativo comunque diventa un percorso organizzativo su come vogliamo operare, perché chiaramente per aver scelto questa modalità di formazione è perché abbiamo espresso un nostro pensiero, un nostro desiderio, una nostra attività, come vorremmo politicamente portare avanti il servizio. Sì, difatti ne avremo modo di parlare successivamente, a te un po' l'accennato, poi te lo dirò allora alla fine di questo incontro. Questi due momenti, questi nostri due incontri, vanno a porre l'attenzione sul come fare il lavoro, non sul cosa, che anche questo, a proposito di cultura, anche questo è un tratto, cioè è una caratteristica della cultura professionale più diffusa, avere strumenti per fare un qualcosa, no? Dunque voi avrete delle indicazioni chiare sul cosa fare, in buona parte lo state già facendo nei propri lavori, nei propri territori. La mia attenzione è esattamente in questo: come andremo a farlo, magari, ma sono stimoli, ci vorrebbe più tempo. È un senso comune, quando parliamo di un modo di fare, no? Parliamo di un senso, che, guardate bene amici, può darsi che non sia il migliore, può darsi che non siamo d'accordo tutti, l'idea, la volontà, l'invito di questo momento è di mettere al centro una serie di riflessioni e vedere che intanto ci sono altri modi di pensare, ma magari questo gruppo si riconosce in due, tre, quattro cose. Sul resto non sono d'accordo, benissimo, nessuno ha detto che dobbiamo diventare una confraternita, insomma, con il decalogo comune. Non è un corso di plagio. Non un corso di plagio, ma non si tratta di una questione di grammatica, ma di semantica, emotiva e di senso, cioè quattro robe, uno, due, tre, che sulle quali tenerle, cito Cartesio, tanto odiato da Francesco, ma come coordinate cartesiane, avete presente la bussola, no? Nord, sud, no? Ok, cioè quattro puntini, poi per tutto il resto confrontatevi, continuate a confrontarvi, quattro cose sulle quali tenere in considerazione che magari tutto questo gruppo la riconosce come utile o l'ha legittimata, ok? Dunque il senso è questo, un glossario di quattro significati, quattro parole che da tenerle per uso comune. Il primo era quello del significato, dunque la grande interrogazione. Per arrivare alla seconda, a che cosa interculturale e poi che cosa microrelazione, come approccio, come un perché, partiamo da due premesse veloci. Io ho una domanda, posso? Sì. Prima che si va avanti. Ah, sì. Qualcuno ha un bicchiere, scusate. Ah, mi vado a prendere. Ah, no. Sentite, ma se ti riporta. Ti ringrazio. Ti ringrazio. Vai a pure una bottiglia d'acqua. Come? Okay. Grazie. E, io non sono così sicuro che nella scatola ci mettiamo, ognuno ci mette quello che vuole. Sì, non sempre è così. Non, perché mi viene da pensare che tante volte il lavoro del dialogo, di mediazione, sì, è un lavoro, perché non decidiamo tante volte noi quello che ci viene messo in quella scatola, e a volte il lavoro è togliere quello che qualcun altro ci ha messo dentro, anche perché in contesti diversi, se fossero le parole solo scatole così, allora direi va bene, però è il motivo per cui questo corso è specifico sul contesto sanitario e su cosa vuol dire anche una relazione con il ruolo di un medico che può fare quel discorso di dire mi stai mancando di rispetto, vai fuori anche se è urgente perché mi stai mancando di rispetto. Quindi c'è un contesto perché quello che viene messo in quella scatola è condizionato. Arriva anche da altre parti. Ah, come se ci fossero gerarchie delle parole. Nel senso, per esempio, poterla. Prima facendo l'esempio della media, cioè nel senso di significato di casa, avrà sicuramente Giulio che è arrivato ieri sbarcando a Porto di Salerno un'idea di accoglienza e di casa. Ma la parte istituzionale è sempre quella che magari decide per te cos'è casa, pur avendo il tuo, la tua idea di casa, perché le parole sì, sicuramente hanno significato per ognuno di noi e cambiano, ma c'è sempre qualcuno che determina per te cos'è giusto, cos'è la parola casa. Per cui diventa, mi collego a questa cosa perché pure prima ci ho pensato, nel senso potremmo avere 3.000 significati per ogni cosa, però c'è sempre qualcuno che può determinare per te la parola. Cioè, sì, la costruzione del significato è una parte importante del sistema di conoscenza, ma è intimamente legata all'organizzazione del potere. Cioè, se è per me. Sì. Dunque, il significato nella storia dell'uomo, ahimè, buona parte del significato delle parole è stato riscritto da chi aveva il potere di dare, di riempire di significato queste parole. Ma della scuola insegnante. Quelli sono due poteri che abbiamo parlato della lezione scorsa. Ah, te l'ero messo le puntate Era quella fase. Perché Giulio aveva lavorato con lui, quindi sì, ho capito, intuito quello. E condivido, sì, è una difatti, cosa, in realtà è vero, sì. Sì, sì, difatti la questione del potere, vi ricordate l'altra volta in modo molto, molto, molto semplice, insomma, anche ci siamo confrontati sull'idea del potere, no? L'idea del potere personale e l'importanza personale. Nella storia del mondo buona parte dei nostri significati è stato schiacciato da qualcuno che ha scritto per noi questi significati, il che non significa che quella scatola il cui significato qualcuno ha voluto, cioè lei ha voluto mettere questo, a lei piaceva questo e poi alla fine io mi porto questo significato che sento non mi appartenga, ma disinnescare questo meccanismo potrebbe essere una cosa che ci appassiona da esseri umani, che si rapportano con altri esseri umani. E il fatto che avvenga così non significa che non esista la possibilità di sbrigliare, no? Di aprire questa scatola e restituire l'autenticità del valore originale, dell'immagine originale che ci apparteneva o che ci appartiene. Di cui noi non dobbiamo mai perdere memoria. La fregatura che accade con l'esercizio di potere, qua rischio di fare un discorso complesso, è che questo rumore del potere, no? L'autorità che mi dice no, guarda, l'accoglienza è questo, mia madre che mi dice no, guarda, l'accoglienza è questo, mio marito che mi dice l'accoglienza è questo, questo rumore, immaginate proprio il rumore di un fiume, che fa annientare il rumore e quella vocina delicata che ognuno di noi porta dalla nascita, quello che per i padri greci veniva chiamato daimon, no? Il daimon è una specie di creaturetta che quando nasciamo ci accompagna e cui unico compito durante la nostra esistenza è di sussurrarci per che cosa siamo venuti al mondo. Ma ci sussurra, non urla, sono gli altri che urlano. E ci dicono, no, guarda, casa è questo, amore è questo, rispetto è questo, sesso è questo, felicità è questo. E tanto urlano che questa vocina non la sentiamo più e ce la dimentichiamo. Anche perché poi magari ci arrabbiamo e diventa una prigione, ok? Ma il fatto che noi non percepiamo quella vocina non significa che sia scomparsa, significa che noi siamo sopraffatti o ci lasciamo sopraffare in modo molto pesante da questo vocione, no? Ma quella sta là. Fare l'esercizio di disinnescare questo, intanto è un lavoro personale che riguarda i nostri processi, no? Allora, anche l'ambiente. Sì, c'è un potente condizionamento. Qua entriamo in un territorio che è molto interessante, che a me appassiona molto, però che rischia di portarci verso altre vie. Però è molto, molto interessante. Guardate, una delle cose che ci può, che ci fa diminuire, che non annienta, però che può. Che può annichilire la nostra libertà e dimenticare chi siamo, e dimenticare perché siamo venuti al mondo, e dimenticare il senso che abbiamo dato da sempre alle parole. Prima ancora di nascere, amici miei, le parole ci accompagnavano già e ognuno aveva una portata autentica di valore. Poi arriva il resto del mondo. Dimenticare chi siamo, dimenticare chi si è. E costringerci invece, come dicevamo l'altra volta, a dover dimostrare all'altro che tu sei qualcosa, no? Questo voler dimostrare significa mettersi un vestito, mettersi una cosa, costringersi a fare una roba. Tu non sai chi sono io, ma ti faccio vedere che chi sono io. Non io sono italiana, io sono donna, io dentro di me chi sono, le mie emozioni che mi hanno portato ad essere quella che sono, e quindi a combattere casomai contro la mia famiglia che non capivano che cosa fosse un sociologo, e imporre la mia formazione a persone che chiaramente i nostri genitori non hanno il nostro background, no? Il nostro, la scelta fatta da un condizionamento della società, dalle curiosità che ci sono state stimolate, che sono diverse da quelle delle nostre mamme, che pur appartenendo insomma a quell'etnia, quella è un'altra cosa, non sono io. Sì, sono condizionamenti. Sono condizionamenti che ci vengono dati, che ci vengono imposti, che non abbiamo scelto, che ci siamo trovati ad essere io italiano, tu congolese, tu. Ma le nostre, l'essere noi, quello che abbiamo scelto noi di essere. E qui apro una parentesi, mi presti il fianco. Guardate, mi rendo conto che per alcune cose sembra che andiamo random fuori, però trovo utile fare questa parentesi, perché c'entra col nostro lavoro, in qualche modo l'abbiamo toccato l'altra volta in una riflessione. I condizionamenti, che è quello di cui parla Giovanna, quel rumore che ho detto io, no? che ci dice cosa dobbiamo fare, come dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, chi dobbiamo amare, come non ci dobbiamo vestire, cosa dobbiamo scegliere, tutta questa roba, si chiama condizionamento, perché ci condiziona, no? ci costringe, sembra che ci impone a fare delle robe e ci abitua a fare, agire, a pensare in un determinato modo. Ok, guardate bene amici, che questo che diventa un'abitudine può anche essere il risultato di aver vissuto o di vivere come un rituale, ad esempio, anche l'abitudine di lasciare a qualcun altro di prendere le decisioni per me. E questo ci riguarda. Perché? Perché nella funzione specifica di negoziatore, di mediatore, mettiamola così, noi siamo chiamati a sapere una serie di cose, ma essere molto attenti al come andremo a farle, evitando non solo le barriere comunicative in quanto tali, in quanto effetto della comunicazione, cioè dunque non soltanto avendo uno stile di comunicazione il più impeccabile possibile, ma soprattutto facendo attenzione a evitare di cercare a ogni costo di risolvere le cose, perché nell'immediato, per questo parlavo del corto, del breve termine, nell'immediato noi risolviamo il problema. Nell'immediato l'AS si troverà con dei numeri fatti, la RADA pure, eppure voi con due belle tre schede fatte. Ma noi creiamo e tendiamo, possiamo creare l'abitudine nell'altro a non prendere mai in modo autonomo le decisioni. E dunque, in termini più pesanti, ve la dico, noi possiamo incorrere nel rischio di disabituare, di far perdere l'abitudine alle persone di essere liberi. E le persone, cioè, se non imparano a prendere decisioni e a sbagliare, ma ve l'ho detto, l'errore è un modo di conoscere le cose. Ci sono sempre modi migliori per sbagliare. Sempre. Sempre. E dunque, che l'altro impari a assaporare la libertà anche dei suoi errori. Ragazzi, sarà un guaio tante volte, perché magari si complica il tempo, sarà un guaio anche per la RADA o per chi sia, insomma, per l'AS di turno, perché magari il processo è più lungo, perché magari dovete confrontarvi di più, però se noi vogliamo pensare in un sistema, non nei prossimi 6 mesi che dura il progetto, nel prossimo anno che la prefettura ha il finanziamento, ma nei prossimi 10 anni, noi confrontarci con persone che hanno imparato a prendere decisioni, a essere liberi, noi dobbiamo iniziare dal nostro modo di interloquire con loro. Con loro, chiedo scusa. Quindi sempre lasciare a decidere loro. Guardate, nel counseling, che è una attività che noi facciamo, cioè, nel counseling, non nella psicologia, nella psicoterapia, nel counseling, ma un atteggiamento che si sviluppa nei counselor, nelle persone, insomma, è la capacità di ascoltare innanzitutto e di affiancare le persone, esattamente, immaginate questo, no? Cioè mettersi a fianco alla persona per dirle questo: guarda Giovanna, se esci da lì troverai la pioggia, ok? Piove e fa un po' di freddo lì. Se vai per il corridoio e questa strada trovi il sole, tu che vuoi fare? Io ti dico, non secondo me, se vai di là e piove ti bagni, ma poi ti prendi un raffreddore, vedi un po' te, perché sto già dicendo le mie considerazioni. Di là fa freddo, di là fa il sole, perché poi siccome a me piace molto il sole, no, dico guarda di là, se vai di là ti fai una bella passeggiata, perché... Ma se noi ci stiamo confrontando con una persona che nella sua vita è stata sempre sotto il sole e non ce la fa più, perché si è pure scotata col sole e non vede l'ora di andare per l'ombra per una volta in vita sua, noi, significate amici miei, noi crediamo che quella sia una cosa bellissima, perché è tanto bello per noi farci una bella passeggiata sotto il sole, no? E magari c'è la pelle così bruciata dalla stanchezza, dal sole metaforico, che un pochetto di pioggia quasi quasi li dà sollievo. Allora, quando dico questo, cioè di non risolvere il problema, guardate, orientare, non assistere. No, informazioni. Orientare, che qui ci sta, al nord ci sta la pioggia, al sud ci sta il sole. Quindi orientamento è no, orientare e no, direi che la parola che meglio dice quello che sto rappresentando è fare, si chiama rimando empatico, no? Cioè tu mi dici, sì, dovremmo indagare cos'è un rimando e cos'è l'empatia, ma mettiamola così. Io ti vedo seduta, a te fa piacere, se trovi di là trovi sedie, se vuoi stare seduta, di là stanno tutti in piedi, tu sei stanca? Sì, guarda di là ci sono le sedie, di là ci sono tutti in piedi, cammini, insomma mi fa perdere una sciocchezza, no? Ma se io ti dico, ma come ti trovo stanca oggi? Secondo me quasi ti potrebbe, perché non ti vai a sedere? Magari tu, no, ti avevi fatto una bella corsetta questa mattina, sei un po' faticata ma piena di ossitocina perché sei contenta, e dici, oh, ma effettivamente guarda, quasi quasi mi siedo, perché effettivamente non ci avevi neanche pensato, ma vai ci siedi, ma invece non vedevi l'ora comunque di continuare a smaltire. Boh, dico così. Mettere non diventa semplice quando i nostri interlocutori, e parlo non soltanto di un compaesano, di una persona che state affiancando, anche dell'agente terzo, del medico, sì, dell'assistente sociale, della persona, no? Ma chi l'ha detto che come la vedi tu? Non si tratta di fare il braccio di ferro, amici miei, si tratta sostanzialmente di affiancare e di mettersi in atteggiamento di ascolto e soprattutto veramente aprire domande. Essere neutri, mantenere la neutralità quando si è in una situazione di disparità di potere, non è più essere neutri, no? Però mantenere il radicamento, sicuramente l'atteggiamento di ascolto significa avere costantemente la percezione di quello che sta accadendo, da una parte rendere conto di quello che sta accadendo, sì ma annullare anche ciò che pensi che magari sia giusto, sospenderlo, annullarlo è molto difficile, ma avere una sospensione, vedete, la sospensione del giudizio, si confonde spesso con la buona educazione. Quello di cui stiamo parlando sono atteggiamenti, sono attitudini che si devono imparare, praticare, conoscere, ripetere, fin quando non sono intesa. Cioè, dopo oggi penso di aver sbagliato sempre. No, no, in questo caso pending come sospensione può funzionare meglio. No, che... no, però c'è semplicemente rispetto. Secondo me è rispetto forse la parola più. Perché essere cosciente io sono, punto. No, io sono, quindi. Io sono, ma tu sei. Siamo, quando si parla della diversità di entità, cioè noi siamo esseri umani in quanto camminiamo su due piedi, è l'unica cosa che teniamo in comune. Per il resto, io sono, tu sei, io sono, tu sei, io sono, tu sei, perché io sono italiana, tu sei, io sono donna e lui è maschio, io sono bianca e tu sei bionda, io sono con gli occhi scuri e tu sei con gli occhi chiari, ma la mia storia personale, da quando sono nata, che con grande, mia mamma ha fatto 2 giorni di sofferenza per i dolori, per il parto, che mi ha condizionato, no, questo racconto continuo, che casomai tua mamma sarà nata col cesareo, quindi tu sei nata bella, già tutta rosa e fresca, quindi già anche un sistema di accoglienza diverso, ti avranno raccontato nella vita, ah, quando sei nata com'eri bella, sto parlando rispetto a me che abbiamo sempre detto, mamma com'eri brutta quando sei nata, sei nata col focci, vedi, tutta nera, tua mamma ha sofferto 2 giorni, tuo padre è svenuto perché non ce la faceva più lui, il dolore di madre. Così il primo psicanalista si guadagna esatto. 150 euro. Lavoro fatto proprio. Però cioè, quindi io... siamo diversi, quindi io sono, tu sei. Quando tu mi racconti, io devo sapere che tu sei una persona diversa da me, quindi quello che percepisco è la, è quello che ti devo far percepire, la mia impegno del voler capire la tua esigenza. E in che maniera poterti accompagnare per la risoluzione della tua esigenza, rispettando il tuo modo di essere. Senza aggiungere qualcosa da te. Perché tu sei già a un altro punto. C'è una parola. Però io voglio solo aggiungere una cosa prima che andiamo. Perché voi pensatevi un attimo. No. Ah, e poi ricordatevi che noi, tornando un po' all'operatività della nostra attività, cioè il nostro progetto, e andare a supportare persone che hanno fatto un percorso tosto, e molto probabilmente anche voi, essendo immigrati, non avete fatto. Quindi la condizione di immigrato non è la stessa condizione tra le persone. Individuale. È sempre individuale. Come individuare la mia storia di donna rispetto alla tua storia di donna, eppure siamo donne. Infatti il senso è esplorarlo questa mattina, infatti è esattamente questo, andare a esplorare la unicità, dicono, del racconto di ciascuno, ma nel immaginare come fare, una delle parole che vi metto in mezzo, varrebbe la pena fare un incontro o due incontri solo per aprire questa è una parola in tedesco, Mitzrayim, è molto cara a Heidegger e letteralmente significa essere con Mitzrayim. Perché vi dico questo? Perché questo sarebbe un equivalente alla considerazione, ma ancora di più Mitzrayim. Nella testa di questo filosofo, molto bello, Heidegger, ma vi potrebbe piacere, immaginate questo, quando lui parla del Mitzrayim, del essere con, secondo me si troverebbe pure molto bene a fare questo gesto. Lui dice che noi siamo, se siamo in relazione, in quanto siamo in relazione con l'altro, noi diveniamo ciò che siamo nell'essere con l'altro. Quando parla del Mitzrayim, pensate alla parola essere con, dice noi siamo, no? Noi siamo perché tu ci sei, perché tu sei. Non possiamo, se fossimo unici proprio soli, se ci fosse un uomo, se fossimo da soli, non potremmo divenire un qualcosa, perché abbiamo bisogno, perché diveniamo un essere ciò che siamo nei continui incontri. La storia dell'uomo, la storia del mondo, direi io, la storia dell'uomo, amici miei, è fatta di incontri. Noi abbiamo interiorizzato, emozionato, preso coscienza, concettizzazione di tutti quegli incontri che abbiamo fatto. E non pensate agli incontri, quelli che abbiamo fatto col prefetto, col fidanzato, col marito. Gli incontri sono tutte quelle cose quotidiane che come le goccine ci danno forma. La nostra storia è fatta di incontri. Detta così, rende magari più semplice la comprensione di come ognuno di noi è il risultato di tutte quelle persone. In Africa, un mio amico del Senegal mi diceva che, come mi diceva lui, noi siamo tutte le persone che abbiamo incontrato, no? Sì, cioè noi siamo che rispecchiano in noi, vero? Sì, sì. Rispecchiano in qualche modo. Sì, e noi a sua volta. Durante la nostra vita. Sì, come se ognuna delle nostre, come se la nostra sostanza, no? Come se noi fossimo fatti, e siamo a tutti, io credo questo, siamo fatti di una sostanza che in buona parte continuamente abbiamo ricevuto nell'incontro con gli altri, in modo impercepibile, no? Non ci facciamo neanche caso, ma ogni cosa, bella, brutta, più piacevole, meno piacevole, ci lascia sempre qualcosa. Ci forma. Ci forma, ecco, entrate in questo senso, ci forma nel senso che ci dà una forma alla nostra anima, una forma anche alle nostre parole, ecco, mette delle cose o le toglie, le rende più belle o meno. Prendetevi questo anche per voi stessi, perché anche voi siete artefici nella vita di tutte le persone che voi incontrate. Io quello che voglio dire, perché prima la signora quando ha detto che dobbiamo essere neutrale, Sara che ha detto che mi sento che ha sbagliato in tutto quello che ho fatto, no. Però io credo che anche come mediatori c'è qualche volta che dobbiamo anche usare il potere, perché nel lavoro, perché anche per convincere uno di fare esempio una visita che deve essere fatta con questo modo, e lui ha l'idea che quella non si fa così, perché lui al suo paese li fa con quel modo, allora anche là dobbiamo usare un pochino con modo per spiegarlo, che così cambiare anche il punto di vista suo, non lasciare quella che ce l'ha, che c'ha in mente. Sì, per sì, questo sì. C'è un po' di tutto. C'è un po', sì, sembra ambiguo, ma in realtà non lo è, perché indicare la regola del luogo, quando dalla regola non si scappa, sì, nel senso che la visita, un ginecologo per fare una visita ginecologica non è che le può visitare i denti, insomma, deve fare una visita ginecologica, deve fare una visita ginecologica. Se la signora è infibulata, rappresenta una complessità sia per lei sia per il medico, ad esempio, rende più complesso tutto. Ma spiegarle all'uno e all'altra, no? Come è alla signora, qual è la regola? Dopodiché le complessità affrontarle in un modo alternativo che non sia necessariamente l'imposizione. Questo sto dicendo che è diverso. Ok? Questo sto dicendo che è diverso. Non è che poi adesso è nell'ottica della considerazione allegria, insomma, facciamo un'anarchia di significati e come va. Anche no. Se non c'è, non, noi dovremmo partecipare al mondo anche per poter far comprendere che chi detiene il potere e determina le regole potrebbe in qualche maniera modificarle senza portare grandi danni. Sì. Nel senso che la regola è che se tu vai dal ginecologo non ti puoi far visitare i denti, però la mia regola è che se io vado a visita, per il mio concetto di visita, per la mia religione, per la mia pensiera, io non mi posso far visitare da un ginecologo maschio. Allora la comprensione che stiamo cercando di portare avanti anche al potere, certo, di far comprendere al potere che comunque in qualche maniera deve innescare un meccanismo di flessibilità per il rispetto di tutti. Sì, questo come quindi se noi entriamo nella concezione che non è quella la regola. E si può cambiare. O quantomeno possiamo trovare dei punti di incontro. Ecco. Allora, se io vado poi al potere e dico gentilmente, sì. Siccome io sono ascoltare, io ho lavorato per, e mi faccio ascoltare, però sì. Perché io lo chiedo per farmi comprendere che io ho una difficoltà, perché la mia regola non mi consente determinate cose, allora io metto anche in condizione il potere di mettersi non in discussione, ma cercare di poter trovare l'espediente per potermi venire incontro. Sì. Però è quello che diceva lei, le modalità per cui, con cui io le chiedo, l'organizzazione a cui io posso far parte e far capire l'importanza dell'essere flessibile. Certo. Però cercando di essere flessibile, per chiedere flessibilità, devo dimostrare di essere una persona flessibile. Mm-hmm. E sì, quindi o, di o avere pratiche non mettere il muro, ma di chiedere in maniera tale da aprire un argine nel muro e dire veniamoci incontro. Sì. Sì. Tra l'altro uno degli elementi che trovo importanti, è molto importante quello che dice Giovanna, anche perché Giovanna Sotti lo dice in quanto funzionario del servizio sanitario, cioè dunque del sistema sanitario nazionale. Ma anche come cittadina, anche che come comunque cittadina. Sì, cioè perché ho anche io la mia idea politica, certo. La mia cosa. No, lo dico perché lo dico guardate, è utile alla nostra spiegazione sia per voi, ma diciamo ancora insomma come a Giovanna, perché è spesso quello che va scardinato, no? Va disinnescato in qualche modo. E il pericolo che sentono i professionisti, no? di agire una flessibilità e sentirsi traditi come persone piuttosto che come professionisti. Cioè, in ogni caso pensano in un tradimento, no? In venire meno a qualcosa. Avere pratiche flessibili e essere persone flessibili sono due cose differenti. Allora, la persona può essere e non cambiare minimamente se vuole, anche se meglio se permette una nuova interiorità, eccetera. Ma il potere quello che può fare è creare prassi più dialoganti e senza sviluppare condizionamenti, ma anche senza andare per stereotipi. Sì. Parlo del fastidio che può provare un ambulatorio di ginecologia quando la richiesta è di poter attingere, poter utilizzare una dottoressa, no? Una donna per fare la visita alla signora che non vuole essere visitata da un medico maschio e vedere l'operatore sanitario che dice però questi vengono, fanno, dice, no? e cominciamo con quel noi tu, e non considerare che se la paziente è una persona di 80 anni che viene dalla campagna dell'agro nocerino, che molto probabilmente, cioè non escludo, che possa fare la medesima richiesta, perché nella sua cultura contadina, no, la signora trova molto più piacere e si trova, cioè, per il suo per suo agio essere visitata da una donna, no? E allora la stessa reticenza si sviluppa di più nei confronti della signora del Mali che vuole essere visitata dalla dottoressa, è un po' meno dalla vecchiarella che per fatti suoi vuole essere visitata dalla dottoressa. Perché? Perché questi vengono qua e rompono le scatole, tanto per dire. Ti dico questo perché poi si riporta, ma vedi che là agiscono altri condizionamenti, ma su quello appunto noi ci stiamo lavorando, stiamo lavorando, perché la mia esperienza, cioè quello che ho detto dell'esperienza di quando ero ragazza che facevo consultorio autogestito, dove come sono stata un po' di meno sono stata ragazza molti anni fa e quindi non si lavorava ancora sulla problematica dell'immigrazione, ma semplicemente una donna appunto può semplicemente avere difficoltà nel farsi visitare da un maschio. Io ho seguito un corso preparto, ora eravamo ventina di donne, ma tutte italiane, che la maggior parte hanno per scelta, hanno scelto del genitore per femmine, perché esatto, si sentivano proprio non era un fatto religioso, cioè, non c'è la... ma si sentiva. Poi dopo è arrivato anche problematiche religiose e cose, però e questo dice. Guardate, allora io così andiamo avanti, dico che questo è un lavoro che in modo opportuno, perché i tempi stanno maturando oramai, insomma sono anche per certi versi super, si sta iniziando a mettere a fuoco questo lavoro, cioè questo deve essere fatto anche dall'altra parte, no? Sì, sì. Questo, guardate amici, è molto chiaro, perché altrimenti, come il discorso di disabituare le persone a assaporare la libertà, noi possiamo involontariamente o inconsapevolmente, senza renderci molto conto, dare un contributo al resto della società, mettiamola così, a una parte della società, a fare una lettura. Loro vengono e fanno come vogliono. Allora, si mettessero anche loro, no? Intanto, perché sono discorsi che noi abbiamo sentito, che noi sentiamo. Ah, ok, sono attuali. Patroni del patrone, perché vengono. Allora, il lavoro è lento, è artigianale, no? È certosino, ma deve essere fatto da entrambe le parti, perché se la pratica dell'ambulatorio permette di fare una visita medica per le signore fatta da dottoresse, benone. Se non si può, perché operativamente, perché praticamente, perché le risorse sono quelle, che facciamo? Non si fa, assumiamo, no, non funziona neanche così. Dunque, la questione della mediazione non può essere unidirezionale, no? I significati, altrimenti non c'è dialogo. Dialogare, intelligere, significa fare, no? Non significa fare ping pong, mi ha detto questo, loro hanno detto questo, no, intelligere significa costruire, tessere, intelligere, insomma rilegare con altre corde da entrambe le parti, dunque mettere a fuoco qual è il significato che dà questa parte alla medesima cosa, qual è il significato che dà questa parte alla medesima cosa e vedere in mano. Sì, sì, ma è la questione di sensibilizzare e passare questi contenuti deve essere fatto su tutti i fronti, altrimenti è sempre sbilanciato. E va a sostenere una parte della società che si ha questa invasione, no? di costumi, di modo di fare, che non si ha una volontà di permearsi e dialogare. Se mi sta bene poi faccio propria la cosa, se no... Ma anche perché non è che perché sono a Napoli devo mangiare pizza o devo muovermi così, no, non mi piace, non mi piace. Però avere la possibilità di aprire la pizza. Prima di andare in pausa, che sono le 11, ci siamo addentrati in questa riflessione, però che trovavo utile. Ma è necessario. Sì. Posso fare una domanda? Sì, prego. Sì, ma il lavoro del mediatore non può essere, diciamo, non possiamo confrontarsi a, diciamo, alla realtà sociale, che la persona che ha il bisogno, l'istituzione che ha le regole e poi la cultura con i valori. Ma lì, quando faremo il lavoro, noi dobbiamo andare incontro alla realtà sociale o dobbiamo essere dentro? È lì che non capisco. È molto opportuno, secondo me, è molto più strategico essere dentro. Proprio là io voglio arrivare. Ci sono due modi di aggredire, diciamo, ci sono due modi, molti di più, ma tanto per dare una immagine. Noi possiamo da sopra decidere che forma dare a questo, o possiamo dall'interno, no? Ma proprio molto più lentamente, guardate, pezzettino per pezzettino, in modo molto più delicato, più lento, anche più complesso, però più umano, andare a dare una forma a questo. ti chiama informare. Dare forma al tuo lavoro, cioè al vostro lavoro, può essere fatto o utilizzando solo le cose dall'esterno, le regole, i modi, i fatti da fuori, e dunque in questo caso essere nel sistema, o dare una forma, informarla, significa dare forma dall'interno, informare, informa, no? Dare forma da dentro. Come? Mediante una modalità che secondo me può pagare a lungo termine, cioè è una modalità 1-1. Puoi usare tutto quello che ha detto, sì, la sì. cultura. La... Sì, sì, ecco, e infatti il tema di oggi, proprio il nostro, mi fa piacere questo perché io mi sono posta quella domanda. Dentro o fuori? Dentro, da, come? Da, so, da fuori o da dentro? Come si fa? Perché alla fine là è il problema, no? Cioè, uno dei problemi più. Ok, dunque noi andremo a atterrare in una mia risposta a questa domanda così importante. Ok? Dunque teniamola presente perché là andremo a atterrare. Ok? La ringrazio. Però passiamo per queste premesse. Facciamo queste due premesse e ci arriviamo a pausa. E noi dobbiamo lavorare, ci siamo attardati in questa bella, queste belle riflessioni, insomma. Allora, per poter aprire la parola interculturale ci sono due premesse necessarie, due premesse, due cose che ci dobbiamo dire velocemente, ma credo che siamo pronti per dirci. Vi chiedo di unicamente concentrarvi sulla prima affermazione. No, per poter andare avanti noi dobbiamo dare, mettere in conto che ci sono una serie di cose che sono dati. Questo lo abbiamo un poco esplorato, la differenza tra significante e significato, no? E le parole e che cosa, qual è il contenuto delle parole, no? Mettiamo in conto questo, che non è scontato che tutti diano la stessa interpretazione. Ma la cosa più importante che trovo come una premessa per andare avanti e che per noi deve essere assolutamente, assolutamente chiaro, ma proprio deve essere chiaro, è che la immigrazione e l'intercultura non sono la stessa cosa. Questo ci è chiaro? Sì, certo. Ci è chiaro? Sì. Perché è chiaro che non siano la stessa cosa? Perché? Non è che l'Italia, o i sistemi in genere, ma l'Italia, sia diventato un paese interculturale. Intanto non lo è ancora. Con l'avvento dell'immigrazione. Pronto? Non è che sia con l'arrivo di persone che vengono da altre parti questo posto abbia conosciuto questo posto. Perché la immigrazione, la migrazione, le migrazioni sono un dato che riguardano la storia dell'uomo. Da quando l'uomo ha scoperto di avere due gambe e non due radici, ha deciso che poteva valere la pena di spostarsi, no? E spostarsi, ok, questa è la storia del mondo. Marco Polo faceva l'immigrante, no? Se ne andava di qua. Il commercio, insomma, da quando l'uomo è uomo, da quando l'uomo esiste, ha fatto sempre questo. Dunque non è una novità la migrazione. Ma l'intercultura in questo paese, purtroppo, è stata introdotta. Si è cominciato a parlare di più soprattutto da quando si sono visti, se quando si è reso più visibile il numero di migranti, il numero di persone non autoctone in questo posto. Ma quando parliamo di intercultura stiamo parlando ancora per questi minuti della presenza di culture differenti, mettiamola così, e poi cambieremo questa definizione. Ma le persone tendono a pensare che immigrazione e intercultura siano la stessa cosa. Beh, vai nel corso di comunicazione interculturale. Ah, allora stai andando a imparare o a conoscere come si rapporta tra autoctoni e immigrati. Che bello, non è così. Perché? Innanzitutto, ad esempio, il fatto che io sia femmina e il fatto che lei sia maschio mi sta dicendo già qualcosa di noi, no? Che io, poiché io non mi faccio la barba, e lei probabilmente sì, ma anche Giulio e qualcun altro, Giulio non la fa. Non si fa la pasta. E il fatto di avere questo dato, no? Ci dice qualcosa, nel senso che lei è uomo, io sono femmina, non possiamo parlare di come ci facciamo la barba, e se comincio a farmi la barba forse diventa un problema anche per me, ma non lo possiamo fare. Come io non posso parlare con lei della mia gravidanza, perché lei mi può ascoltare tanto carino e dire ah che bello, ah oh, mi piacerebbe, ma anche se lei vuole, penso, pur volendo, la pancia non la farà. Come altre cose banali, il trucco, i tacchi, il ciclo, no? Esperienze, e lasciamola lì, per non parlare di diritti, di lavoro, di opportunità, di parità di genere, di aborto, e si aprono temi. Dunque, il discorso della cultura di genere, no? E anche riguarda il dato dell'intercultura, maschi e femmine. Vogliono abolire la 194, e c'è tutta un insorgere, giustamente, con la legge sul divorzio, vorrà dire qualcosa, no? Questa questione dell'appartenere, avere un tratto culturale di genere, vorrà dire qualcosa. Le generazioni, il dato intergenerazionale, le politiche culturali giovanili. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sembrerebbe che i giovani, no, fino a una certa età, vengono considerati giovani, utilizzano modi di fare, modi di agire, orientamenti verso il lavoro, piuttosto che che sembra che una parte della società, i non giovani, devono capire meglio, hanno difficoltà a capire. Quando mio figlio mi chiede a 11 anni di avere il motorino, le dico, ma tu non hai capito niente, non è possibile, no, e se non stai bene, è pericoloso. Mio figlio mi dirà, sì, tu che sei troppo vecchia, non hai capito niente, mamma, io il motorino lo vorrei. Perché c'è questa difficoltà? Perché c'è un dato generazionale, no? La cultura di genere. Dunque stiamo parlando anche là di un dato interculturale. L'orientamento sessuale. Chi è eterosessuale, chi ha un orientamento sessuale omosessuale, un transgender, ad esempio, o una persona che è la comunità LGBT. Perché si stanno ancora a prendere per i capelli, ancora a riconoscere la possibilità di portare due cognomi? Perché un gruppo di persone insorge, perché si è approvato che nella carta d'identità venga scritto madre e padre, e dunque una persona che ha due padri o due madri si troverà in difficoltà. Perché? O solo una madre, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire una questione, stiamo parlando anche di un dato culturale, no? Dunque la cultura, l'orientamento sessuale. La cultura contadina è quella della città, la abilità e la disabilità. Chi è non vedente ha imparato a viversi e a vivere nella società, entrare in relazione in un modo differente di colui che è vedente, e che stiamo parlando anche là di un dato interculturale. Dunque, amici, quando noi parliamo di intercultura non stiamo parlando degli immigrati, e parlare di comunicazione interculturale, come vi dicevo nel primo incontro, e sta parlando di come entriamo in relazione innanzitutto con l'altro, con la, qualcuno direbbe, con la diversità dell'altro, va benissimo per me, con la unicità dell'altro. Il dato interculturale ha poco a che fare con la parola culturale e ha più a che fare col prefisso inter. Inter, basta. Poi guardate, adesso questa è un'occasione, perché stiamo parlando di come si lavorerà nella mediazione con i richiedenti casa, va benissimo, ma sappiate che interculturale è quello che fate con la persona altra, punto. Io mio marito lo vedo da 15 anni a fianco a me, ma per me è un altro. Mio figlio, è vero, è nato da me, ma è un altro da me. Il suo modo di pensare e le sue aspirazioni, la sua idea del mondo. Qua cogliete, amici miei, spero che possiate cogliere, la opportunità che il discorso della immigrazione ha portato anche in questo paese. Ha creato l'opportunità, ad esempio, di rendersi competenti nel dialogo interculturale, come se il dialogo interculturale accadesse tra autoctoni e migranti. Non è così. Il dialogo interculturale è sempre stato. Perché il dialogo o è interculturale o non è dialogo. Cioè, questo è. Poi, a noi, l'hanno messa così, va benissimo. Prendete atto che questo vi può servire nel lavoro, secondo me vi può servire, ma lo prendete a capitale e a reddito per la vostra vita quotidiana, appena uscite da qui, non appena andate al lavoro, appena uscite da qui. Dunque serve per stare in relazione con l'altro, perché? E andremo a indagare ancora perché. E quest'ultima, che ore sono? Questa, e ci salutiamo per il... 10 minuti e noi ce la faccio. Non, perché non vorrei interrompere poi, se no non completiamo e sarebbe veramente monco il nostro discorso. La seconda premessa ha a che fare con una cosa che riguarda in modo molto esplicito una caratteristica, un tratto che riguarda sicuramente i servizi, dunque i luoghi laddove voi o già lavorate o andrete a lavorare, in questo caso ad esempio i servizi d'accoglienza piuttosto che quelli del settore sanitario, ma riguarda, a ben guardare, valga la ridondanza, anche quello che fate voi, perché voi a tutti gli effetti o fate o farete o state facendo un servizio di mediazione culturale, no? È vero? Si chiama più o meno così? Un servizio. Mettiamo così, fate anche altre cose, ma mettiamo a fuoco questo servizio, no? Quell'azione di mediare, di affiancare, ok? Di accompagnare nelle varie declinazioni. Prendiamo la parola servizio, cioè prendiamola come quel qualcosa che andiamo a fare nel nostro lavoro, no? Di accompagnamento, di mediazione, come quel qualcosa che i luoghi dove andiamo a fare questo lavoro erogano a un soggetto terzo, no? Ad esempio lo sportello dell'assistente sociale del comune, al comune eroga una serie di servizi e lo fa mediante la persona che sta allo sportello, l'assistente sociale, lo sportellista, non lo so, via dicendo. All'ospedale lo fa l'infermiera, il dottore, la persona dell'STP, non lo so, no? In prefettura, i servizi, il sistema, il governo, mettiamola così, il sistema dà servizi, eroga servizi. Vado al dunque. C'è chiaro questo? Il servizio. Questi tre dati sono, non riguardano la teoria, intendo dire, non ve li propongo, ve li sto proponendo non perché mi piacciono, ma perché queste sono le definizioni che compaiono anche nei vademecum di tutte le persone che nel settore pubblico di questo paese erogano servizi. E però vi confesso, vi dico che ho avuto la constatazione che buona parte delle persone che erogano dei servizi, questa cosa, che la tengono proprio davanti agli occhi, tanto l'avranno vista che non la vedono più. E dunque, Giovanna, tutti questo ne hai preso contezza, che non è passata per gli occhi, no? Come quando tanto ne fai che non lo vedi. Come respirare. Come respirare. E valsa la pena ritornare. Perché analizziamo velocemente. Dice il piano di comunicazione dei servizi pubblici in questo paese. Quali sono le caratteristiche di un servizio? Un servizio è un'attività di natura intangibile, cioè che non si tocca, che non ha forma, che si realizza nell'interazione. Dunque, prima cosa, il servizio è quello che si fa nella interazione, dunque che si crea, e ancora torna a questo momento, con l'altro, si crea con l'altro nell'interazione, nella interazione, relazione dell'altro e la mia, no? Il servizio si crea nell'interazione. Due, il servizio viene consumato nel momento stesso nel quale viene erogato. Il servizio viene consumato non dopo che, voi, che si esce dall'ufficio, non prima, ma durante. È un durante, viene consumato lì. Qual è il servizio? Fai la visita medica, ok. Quando si sta prestando il servizio? Quando si stava aspettando il numeretto per entrare dal medico? Quando si è uscito con la scheda compilata? O è quel durante, quando il paziente, quando la persona, quando noi consumiamo il servizio? Nel mentre sta accadendo, ok? Nel mentre sta accadendo. Questa seconda caratteristica in marketing verrebbe chiamata the moment of the truth, il momento della verità. La erogazione del servizio è il momento della verità, cioè è il momento nel quale la persona che acquista il servizio, io, posso constatare la bontà o meno di quello che ne stai vendendo. Per questo parlo di marketing, del tuo prodotto. Qual è il tuo prodotto? Farmi la visita medica? Io no, non è dopo che verifico, è quel momento, è quel durante. It's the moment of the truth. Questo vale per il medico, ma questo vale anche per voi amici, perché se il vostro servizio è quello di erogare la mediazione, favorire la negoziazione, favorire il dialogo tra due persone, non è dopo che scrivete la relazione, non è prima nel momento preparatorio, ma è quel qui e ora che si realizzerà nel momento che voi vi trovate con quelle persone, quelle. E perché è così importante? Lo restituisce la terza caratteristica. La terza caratteristica dice che, e questo lo dico, cioè questa è proprio il vademecum dei servizi pubblici in Italia. Il servizio non è replicabile. Non sarà lo stesso. È sempre unico, diciamo. Non è replicabile, non è lo stesso. Si fa una volta, non è la stessa. C'era un filosofo, Eraclito. Eraclito, bravissimo. Questo Eraclito ne ha fatto, potrebbe tradurre. Eraclito, i somi sono andata a scomodare. Questo potrebbe essere equivalente a una cosa, no? Che si chiama Pantarei. Tutto scorre. Quello che diceva lei. Che cosa vuol dire che il servizio non è replicabile? Che perché si realizza nel mentre io e lei siamo uno di fronte all'altro, no? Quelle. Perché lo consumo e si crea nel mentre, nel durante noi stiamo facendo questa cosa, e la non replicabilità dice che se in questo momento io non ho fatto quello che volevo fare, allora momento, perché poi adesso ci prende l'ansia, cioè fammi capire, non ho fatto, che è successo? Vabbè, lo fai dopo, ok? Bene. Però vi chiedo una cosa, vi chiedo di prendere coscienza e interiorizzare che è un altro momento, perché quello che ci sta dicendo è il terzo punto, è che quel che è fatto, è fatto. Non per crearvi sensi di colpa, amici miei, se no per dirvi che c'è una importanza storica, no? È anche relazionale, ma anche storica, nel rendersi coscienti delle proprie azioni. E spesso noi prendiamo questa coscienza successivamente al momento. Ma potevo fare, quando non ho fatto, ma anche quando abbiamo fatto le cose bene, ma anche quando abbiamo fatto le cose bene, anche quando abbiamo fatto le cose bene, non ci rendiamo conto. Ed è tristissimo, anzi io vi invito, ogni volta che siete felici, prestate attenzione, fate attenzione, spesso è al contrario, insomma, ci rendiamo conto solo quando abbiamo fatto cavolo. Per quanto riguarda il servizio, quell'ultimo punto che dice che il servizio non è replicabile, vi sta dicendo, vi sta riportando al centro due cose molto importanti, che poiché noi non vendiamo merendine o patatine, no? E comprando le patatine, quando vado a casa me le mangio e dico, ah, però erano buone, sono buone queste patatine. Il vostro prodotto è un qui e ora costante, che si consuma in quel momento, e di qui, se non è venuto quello che sarebbe dovuto avvenire, è un'occasione persa, che può essere recuperata nel momento successivo. Ma per favore prestate attenzione che qui è un qui e ora costante. Dunque, prendete la responsabilità storica, parolone responsabilità, parolone, cioè se adesso vi vedessi la faccia è vero? E in via energetica, quando si ha un po' di tensione, la prima cosa che accade è che gli occhi rispondono, ma prima ancora degli occhi, sapete che cosa risponde nel nostro corpo? è vero, non mi vede. Perché qua si concentra la paura. Cavolo. È normale, il corpo così. Il corpo non mente mai. State terrorizzati, sarà bello sotto. Ma applicazione tra donne. Ci salutiamo al caffè, aprendo velocemente queste due cose. Naturalmente, quanto vi ho detto, questo non è per farvi terrorismo, è per dirvi, per restituirvi che è vero, quel qui è ora costante, quel pantarei vi sta dicendo che voi avete una grande responsabilità, amici miei. Benissimo. Ma vi voglio restituire la bellezza e la verità che per noi ha la parola responsabilità. Ok? La parola responsabilità, che vista le vostre facce, e non ho visto altro, vista le vostre facce, essendo abituati, no, a immaginare la responsabilità, peso. È vero. Che poi se Giovanni, giustamente, queste persone devono portare la responsabilità, abbi pazienza, muovere con molta attenzione, non sia mai mi cade la responsabilità, faccio il guaio, muovere con grazia tutte queste responsabilità, e se poi sono più responsabilità, sono... è vero, tendenzialmente la diventa più grande, più grande. Voi ne prendete atto figurativamente, ma anche non soltanto, che avendo unicamente la percezione della responsabilità, è un po' difficile guardare le persone in faccia, no? Però o avere, o alzare la testa, e ad esempio godersi anche una bella giornata, anche una giornata di pioggia, diventa difficile guardare chi si ha di fronte, perché si ha soltanto la coscienza, anche fisica, di stupendo. Sulla parola responsabilità ci hanno un po' fregato a proposito di potere, perché ci hanno abituato a questa idea, quando invece la parola responsabilità è bellissima. La parola responsabilità, nella sua etimologia, vuol dire nella sua storia, l'etimologia è questa, no? E significa rispondio abilis, cioè essere abile a dare delle risposte. Responsabilità vuol dire quello, essere abile a dare delle risposte. Avete capito come ci hanno fregato un po', ci hanno abituato la responsabilità, perché poi detta così la responsabilità, uno tende a pensare la responsabilità, intanto qualcuno te la mette qua, no? Perché non sono qualcuno, c'è qualcuno che ti ha detto e ti ha reso responsabile di qualcosa, si perde anche in autonomia. Essere responsabile invece, guardate che cosa ha fatto, un esercizio anche figurativamente, quasi visivamente, molto forte. Essere responsabile di chi sta parlando. Essere. Di me. Essere, l'essere, no? Io posso essere responsabile, posso, se voglio, se ho la responsabilità, anche di acquisire risposte, cioè modi di agire, modi di attuare. Fa un movimento molto importante, secondo me, perché restituisce alla persona il potere, la possibilità di agire volontariamente anche il proprio potere personale. Dunque ci restituisce sì la responsabilità, ma in quanto abilità a dare delle risposte, questa noi farci di abilità a dare delle risposte che non saranno sempre le migliori, ma sono le mie, sono i miei errori anche, ma sono le mie, non c'è un qualcosa che mi può morire. E il potere, perché così come ci dà la responsabilità ci restituisce anche potere, potere. E qui torna quella quel mettere a fuoco e confrontarsi e spratichirsi e alimentare un sano rapporto col potere, un sano rapporto che ci porti, no, a essere sostenuti da quell'equazione esistenziale che sostiene il potere personale, che dice: vinco io se vinci tu, amico mio, vinco io se vinci tu. Non l'importanza personale, non l'importanza personale che spesso poi ci preme perché siamo tenuti a dover essere performanti, a dare risultati, a venire, a dare conto delle nostre responsabilità, no? Questo essere presenti solo al peso delle responsabilità ci spinge più delle volte a avere un atteggiamento di sviluppare l'importanza personale, che è un esercizio che ci vede continuamente a voler dimostrare il nostro potere o quello che sentiamo sia il nostro potere. E a furia di dimostrare, noi ci mostrifichiamo. Noi diventiamo dei mostri. Ma ti faccio vedere io chi sono. Tu non sai come faccio io questa cosa. Non hai capito niente. Non l'avete sentita questa cosa. Perché dobbiamo, è una corsa che non ha fine poi, perché ci troveremo sempre qualcuno a cui dimostrare qualcosa, e quando lo avremo dimostrato ci sarà un'altra cosa da dimostrare e ci stanchiamo. Allora l'equazione di questa importanza personale è: vinco io se muori tu, qualcuno deve morire, vinco io se muori tu. E la capite? È un gioco al massacro, perché qualcuno deve morire. Io so chi sono io, io non ti devo dimostrare nulla. Alimentare la propria, nutrire il proprio potere personale passa anche per sbagliare e non giudicarsi, non biasimarsi, non massacrarsi perché una volta una roba non è andata come voi volevate. Perché? Perché io so chi sono io e questa cosa mi è uscita uno schifo. E vabbè, questa cosa è uscita uno schifo, non sono io. Magari analizza e poi va benissimo. Cambi qualcosa la prossima volta per non fare l'errore. Sì. Va bene, sì. Non fai l'errore. Benissimo, no? Ma creare un distinguo di questo, su questo. E in questo senso viversi la responsabilità che vada a sostenere un'idea di potere personale che non passa per dover risolvere, perché nel dover risolvere sempre si proprio si agisce così, questo gioco quasi mostruoso di dover vincere qualcosa, dover fare qualcosa. Quanti saremo, Giulio? 16? Oggi siamo un po' di meno. Siamo un po' di meno. Allora facciamo tre gruppi. Facciamo tre gruppi. Dunque, come abbiamo fatto precedentemente con la parola comunicazione, noi stiamo per aprire due parole, le faremo collegate in un proprio una corsa, non corsa, ma in un cammino, un camminamento fino alle due. Dunque adesso vi chiedo di essere presenti, di stare nei tempi, così completiamo e andiamo a finire, poi atterrare, dare completamento a quello stimolo che inizia. Io adesso vi do un numero e ricordatevelo, saranno, sarà il numero del vostro gruppo, vi organizzo in tre gruppi e vi do una consegna. Ne avrete 10 minuti, amici, 10, non di più, per fare quello che vi chiedo. Non è un test, non si vince nulla, non copiate. Non ti preoccupare, c'ho tutto e adesso vi chiedo solo di ascoltare il vostro numero. Voilà. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok? Ah, entra nel gioco. 1. Allora, io adesso vi do la disposizione. Il numero 1 si mette qua. No, adesso aspettate, mio via. Ok? I numeri 1 si mettono qui, i numeri 1 qui. 1 qui. I due in fondo, restate fermi, al mio via di volete, due qui, i tre qua, voilà, per fare cosa? Allora, così come abbiamo fatto per indagare cosa è comunicazione, per arrivare a decodificare, a capire, a dare senso, non a quello che dice la teoria su queste quattro cose, non le porto io, ma io ho necessità e credo che sia molto utile anche per abituarci, insomma, a spratichirsi con la questione del dialogo e dell'ascolto. A me interessa sapere che cosa pensate voi, che cosa sapete voi, che cosa credete voi di queste quattro parole. Tra l'altro sono quattro parole con le quali noi abbiamo già dimestichezza, perché fanno parte anche del nostro glossario, no? Il glossario sono quelle parole con le quali utilizziamo più. Ok, amici, non è una gara, non ne abbiamo bisogno di sapere qual è la definizione più completa, più complessa, più ricca. Non utilizzate il cellulare. Wikipedia. Ma è un termine che si utilizzava nell'antichità. Dice sì della parola. Non sarà nostro. Voglio dirvi che prima di voi almeno quasi 1000 persone sono passate per questo, che è molto innocuo, cioè molto semplice come indagine. Però credo che vi farà piacere confrontarvi con quello che ne viene fuori, anche perché lo farete in gruppo. Ogni gruppo avrà un cartellone e metterà a fuoco velocemente quattro definizioni per queste parole, no? Cultura, multicultura, intercultura, interculturalità. Amici miei, quello che voi pensate sia. Però saremo 5 di noi, dobbiamo arrivare a un... anche una determinazione, una definizione. Tra l'altro, con un po' più di tempo, ma osservatevi, vi osserverò io, osservatevi pure, anche il modo di venire fuori, di tirare fuori una definizione collettiva che sia rappresentante, ma anche rappresentativa di quello che pensa il gruppo, non è detto che sia semplice. Vediamo anche che modo di auto-organizzazione avete. Già lavoriamo. Che idea abbiamo di queste cose, di queste parole? E questo sarà il nostro punto di partenza. Adesso chiedo a un rappresentante di ogni gruppo, in 3 minuti, non di più, di dirmi che cosa, le vostre definizioni, presentare le vostre definizioni in 3 minuti. Lo farete tutti e 3 gruppi. Gruppo 3. Faccio io. Vai. Prego. Ok. Alzati. Non la vibrazione. Stai vicino. Ognuno una parola. Ognuno una parola. Allora, ragazzi, come lo vedete, abbiamo qui le nostre, diciamo, come vediamo le parole che abbiamo visto lì sul schermo. Per noi la cultura è prima un'educazione, la nostra propria educazione che abbiamo. Poi ci sono delle tradizioni, quelle che noi insegnano i genitori quando nasciamo. Poi abbiamo la nostra religione sempre che fa parte della nostra cultura, e poi i nostri modi di vivere, che è pure la nostra cultura quando nasciamo. Questa è la natura, è la cultura per noi. Allora, la multi cultura. Per noi è un mix di religioni, perché già abbiamo la diciamo multi, che significa tanto, e poi cultura, che è un mix di religioni, di nazionalità, di culture pure, e tutte messe insieme. Poi abbiamo intercultura, che è un, diciamo, un incontro, l'integrazione delle culture stesse. Quindi tradizioni, e modo di vivere. Religioni, modi di vivere. E poi posso aggiungere pure nel contesto, nella situazione, come la percepiamo, la cultura di origine e poi la personalità, che definisce pure l'intercultura. E poi l'interculturalità noi la vediamo come una cooperazione, e poi anche lavorare all'insieme per condividere gli obiettivi, così che noi vediamo queste parole. Ok, grazie. Grazie al gruppo 3. E il gruppo 1, penso, nessuno. Vai Dora, prego. Vai. I numeri 1, questo è il lavoro di numeri 1. Sì. Che non viene scritto, non ne hanno bisogno. Noi siamo già in quanto numero 1. Siamo già uno. Dopo scambio abbiamo raggiunto questo obiettivo, che la cultura sarebbe la cultura di un popolo o di un gruppo etnico, e sono l'insieme di abitudine, costume, religione, lingue, cibo, tradizione, arte, tutto quello che raggruppa abitudini. E la parola multiculturalità sarebbe un mix di tutto, delle culture, o la parola che viene prima. L'interculture sarebbe lo scambio delle culture, quindi scambio di costume, religione. E poi la parola interculturalità sarebbe agire l'intercultura. Interazione, scusa. Okay. Azione. Ok, benissimo, grazie. Poche parole, ma... Chi si vince? Certo che no. Gruppo 2. Questa non dobbiamo leggere. Ma qua c'è la contestazione. No, questa l'ha fatto proprio lui. L'ho fatto giù. Si protesta, facciamo ricorso. Però c'è anche un errore di grammatica. Allora non vince. Abbiamo pensato che la cultura qualcosa può essere personale, può essere del gruppo, che noi acquistiamo durante la vita, e questa cosa non si stacca da noi, quindi come un bagaglio che tu non lo lasci mai da nessuna parte, dove vai te lo porti con te. Questo bagaglio può essere ricco di tutto quello che hai messo là dentro, quello che ti hanno dato i genitori, può essere la fede, può essere i costumi, le tradizioni, l'arte, tutto quello che tu raccogli durante il tuo percorso. Multicultura è un misto di culture. E qua abbiamo fatto un esempio, Ivy che si mette insieme. Poi se decidi. No, abbiamo fatto un così. Intercultura è invece c'è A, B, C, D, E, P, che interagisce, c'è una interazione reciproca, non solo da A passa a B, no, c'è una freccia che ha. Guardate come è fatta la freccia, che è reciproca. Scambio è reciproco. Interculturalità abbiamo pensato che è un'attività organizzata per creare questa interazione tra le culture, quindi qualche processo, qualche movimento, attività che favorisce ai scambi culturali. dove c'è lo scambio. C'è uno scambio. Esatto, scambio. Scambio. Ha scritto male. Speravo che nessuno. Un dopo lo scambio. Male che ci sono. Lo scambio è una nota malattia. Da batteri maschi, però lo so. La maschera è utilizzata, anche la malattia, la prevaricazione del maschio si tenta sempre. Ecco, che c'è una... La femminista è mai morta. Allora, ok. Avete fatto un gran bel lavoro, innanzitutto perché è vostro. Che cosa intendo dire? Che quando si è autentici non si sbaglia mai. E questo è quello che in onestà intellettuale e per onestà intellettuale voi sentite sia, ok? Quello che io adesso vi dico ha come unico obiettivo darvi altri elementi, dopodiché fate quello che volete, nel senso che se lo trovate adeguato rimettete a fuoco quello che avete messo qui, ok? Non è un giudizio, perché, lo ribadisco, il senso essere di aiuto, darvi mediante i miei strumenti quello che è frutto della ricerca mia, la ricerca di altri, quello che dice la teoria. Beh, iniziamo a analizzare che cosa è, secondo la mia proposta, e in buon conto troverete che alcune delle vostre parole, molte delle vostre riflessioni si trovano. Si trovano già lì presenti. L'obiettivo è proporvi un ordine, fare, ecco, c'è tutto qui. Vi propongo come mettere in ordine la tavola, ok? Su alcune cose, su alcuni elementi è necessario fare subito chiarezza, ad esempio la parola multicultura. Sulla parola cultura, intercultura, interculturalità comprendo, capisco la difficoltà, perché è un ambito, sono tre parole quelle, soprattutto la parola cultura, sulle quali la ricerca, no, la teoria dice molto, c'è molto, e ci sono molti elementi, molte affermazioni che sono chiare a chi studia la cultura, cioè agli antropologi, ai sociologi, ai filologi, ai filosofi, eccetera. È un po' più chiaro. Però non è interessante questo. C'è quelli che fanno aria fritta. Lo dico di me. Ma perché lo mettiamo a tavolo, qui, ecco, sopra il tavolo? Perché lo mettiamo? Perché voi ne lavorate in questo. Ma su ognuna di queste parole, soprattutto sulla parola cultura, tutte le persone fuori da questa stanza hanno un'idea sulla multicultura idem, sull'intercultura idem. E questo è il fatto che accade tra le persone, che danno un senso alla parola e si muovono di conseguenza. Succede anche con gli immigrati, guardate, ci sono paesini dove non è mai arrivato una persona, il cosiddetto straniero, no? Non hanno mai visto per le loro strade un migrante, non lo hanno mai visto, non è mai arrivato, ma nelle loro teste c'è. Sono diversi. Ma hanno l'idea, si sono fatti un'idea, non hanno mai visto una persona, sempre tutte le persone del paese, ma qui esistono già qui. E loro entrano in relazione non con la persona che non conoscono, ma con l'idea che hanno di questa persona. E talvolta imparano anche ad amare o a odiare per sentito dire. E questo è un crimine, secondo me. Questo succede ad esempio con la parola immigrata, ma succede anche con questo, perché su queste parole la teoria dice alcune cose, ma la gente, noi persone, tendiamo ad avere altre idee, e ci interessa quello, perché sono le persone che noi incontriamo. Allora, andiamo alla U. Apriamo la parola cultura. La apriamo, la lasceremo in stand by e poi la rapiamo. Sulla parola cultura siete arrivati molto vicino, nel senso che avete detto che la parola, che la cultura è un insieme, avete utilizzato più o meno, no? Un sì. Insieme. Di solito anche questa è una parola che viene utilizzata per definire cultura, la cultura come un insieme di cose, dati, fatti, usi, costumi, lo avete usato anche voi. Qualcuno è stato molto specifico indicando che sia questo insieme di tratti, di fatti, di dati, di modi di fare che riguardano un gruppo e la persona. Qualcuno l'ha puntualizzato. Ve l'ho detto, che siamo noi. Non l'ho fatto per caso. L'ho detto anch'io. Noi l'abbiamo scritta. Scritta, l'avete scritta. Ho un gruppo. Basta vinci, solo vinci. Questo vince. Nessuno vince. L'idea è mettere a fuoco. Intanto mettete anche una cosa, amici. Voi potreste lavorare insieme. Ma ci rendiamo conto che... Ecco. Qua sono cose diverse quelle che sono dette, eh? No, in alcuni casi sono differenti, in alcuni casi sono diverse proprio, e prendiamone atto. Dunque, quella questione di il significato non riguarda solo la parola albero o la parola casa. Se noi abbiamo un'idea di che cosa sia intercultura, in un senso, e il mio collega ha un'altra bellissima definizione che va in un altro senso, ma noi abbiamo un obiettivo comune, si mette a quantomeno complicata la cosa. Allora, la idea è: questo gruppo come la pensa? Questo gruppo la pensa così. Si è messo a fuoco che sia un insieme di cose che riguarda un gruppo e la persona. Avete anche detto che sia che abbia valori molto importanti la religione, la lingua, i costumi, no? E in modo generico avete utilizzato il gruppo, anche se non sempre detto, no? Ok, vi dico che sulla parola cultura esiste un grandissimo dibattito da sempre, esistono tantissime definizioni di cultura, ma proprio tante, dalla tecnologia alla letteratura, all'antropologia, ci sono tantissime, addirittura ci sono degli antropologi che pensano che non esista la cultura. Ed è una corrente, nel senso che nessuno ha mai visto una cultura, nessuno ha mai fotografato una cultura, e nell'ambito della ricerca, dell'accademia, della teoria, dei libri, mettiamola così, non si parla più unicamente della cultura come un qualcosa che riguarda un gruppo, ma si parla della cultura anche, sì, come qualcosa che riguarda il gruppo, ma l'individuo, soprattutto l'individuo. Mettiamola così, è vero quello che avete detto, la cultura è tutto quello che abbiamo messo nel bagaglio, avete detto, no? Da quando nasciamo, cioè quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo mangiato, quello che abbiamo pregato, i nostri giochi, le cose che abbiamo studiato, ok? In gruppo e da soli, cioè, amici, quello che vi sto dicendo, è che è vero quello che dite, esiste quella cultura, quelle norme, che può riguardare un gruppo, no? Un collettivo, una comunità. La maggior parte delle persone pensa che esista solo questo, no? La C grande, mettiamola così, vogliamo solo per questo incontro rappresentare la cultura, quella che la maggior parte delle persone pensa unicamente esista, come questa C. È vero, ma quello che sfugge ed è strategico, fondamentale ricordare, è che tutto quello che voi avete detto sia cultura è declinato, come i verbi, declinato per ognuna delle persone che esiste sulla faccia di questo pianeta. Cioè esiste quello che potremmo chiamare la cultura che rappresenta un gruppo di persone, ma ognuno di noi declina a proprio modo la propria cultura, e quello si chiama cultura individuale. Io preferisco, a me piace immaginare la cultura come un sistema di attese e di risposte, un sistema personale fatto di codici, ma non la voglio rendere complessa. Faccio un esempio. Ad esempio, se per me, quando allungo la mano, no? Allungo la mano, ecco, allungare la mano per me significa aspettarmi la risposta. Ma ci sta Peppe, no? No. Ok, grazie. Se allungo la mano mi aspetto che lei me la dia, no? Questo per me è un tratto potentemente culturale, per me questo è un saluto, c'ho un'attesa, faccio questo, è un gesto, ma un gesto potentemente culturale. Se lei non mi desse la mano, qualcosa in me mi informa che lei ha fatto un'altra lettura, con anche una ricaduta emotiva, eccetera, no? Dunque io mi aspetto, lei mi risponde e il dato culturale si conferma. E via così. A te si è risposto, ma è una mia idea, mi piace. Non mi interessa adesso sapere cosa sia cultura. Se ci piace, andiamoci a cercare la definizione che più ci piace. Quello che vorrei, vorrei prestarsi attenzione è sull'esistenza di quel macro dato, quella C enorme e quella C piccina. Cosa intendo dire? Faccio sempre un esempio. Che anche se io e lei, se fossimo nati tutti e due a Salerno, gemelle, cresciute nella stessa casa, con gli stessi genitori, gli stessi cibi, gli stessi giochi, la stessa scuola, gli stessi fidanzati, che ne so, lo stesso fidanzato su cos'è, le stesse passeggiate, le stesse letture, tutto uguale, io e lei, pur essendo sorelle gemelle, avremmo fatto propria la declinazione e la interiorizzazione di una cultura differente, magari anche diversa, diversa, no? Perché? Perché lei è lei e io sono io, perché anch'io ho un'idea di amore, o del colore, della bellezza, del piacere, del dolore, della gioia, qualsiasi cosa. E questo perché è molto romantico dire che noi siamo appunto unici e irripetibili, ma è così. Questo ce lo dicono i poeti, e persi nella poesia perdiamo di vista il dato antropologico, sociale e anche sociologico, che è così, che ogni persona è un sano portatore della propria cultura, e il modo nel quale io mi vivo il mio essere donna, donna peruviana trapiantata in Europa, vissuta a Napoli, eccetera, eccetera, lo posso vedere solo io. Perché vi dico questo? Perché si collega intimamente con le successive definizioni. Dunque, l'esercizio che vi chiedo di portare adesso, di fare, no? Metaforicamente, cioè figurativamente, è quello di utilizzare, come hanno fatto con i grandi telescopi che hanno fotografato il buco nero, utilizzare una grande, proprio una grande, una lente così, e fare lo zoom da quel macro, che è l'idea che abbiamo di cultura, a quel micro. Esiste tutto quello che volete credere sia la cultura, va benissimo, quello è. Ma ricordatevi che è sempre, come nel caso degli alberi, è moltiplicato per 7 miliardi e 5, quanti siamo sul pianeta. Questo vale per noi, ma vale per chi andrete a incontrare. E il fatto che lei e lui siano italiani, o siano salernitani, e siano pure lavorando nello stesso settore, ma chi l'ha detto che hanno la stessa idea su colori, piaceri, idee, obiettivi, via dicendo. Dunque, entrate in questa considerazione. Il fatto che la persona che state accompagnando in questura o che state rispondendo al telefono è nata nel vostro stesso paese e parla la medesima lingua ed è femmina come voi o è maschio come voi, ma mettete in conto che potrebbe avere un'idea non soltanto differente, ma anche diversa, ma anche contrastante ma molto anche lontana di quella che pensate voi, del corpo, della malattia, di Dio. Può essere musulmano, ma come si vive la sua fede? Può essere una mamma, ma qual è l'idea che della maternità? Io so l'idea che ho io della mia maternità, no? Della maternità, io. Ricordatevi di questo, torniamo al discorso, a quella immagine di Siva che fu di stimolo per lavorare sulla comunicazione. Dunque, adesso, solo per l'analisi, vi chiedo di fare questo gioco. Un fuoco, se spostate, come veramente avessimo una lente di ingrandimento che dal macro si posta sulla persona. Anche perché vedremo qual è la strategia, perché c'è più. E non è un gioco di immagine, è così. Ognuno di noi è la declinazione di qualsiasi cosa pensiamo sia cultura al singolare. Perché noi siamo unici, come le impronte delle mani, come i fiori. Non esistito e non esisterà, ricordiamoci questo, non esistito e non esisterà una sola persona che poggia il capo come lo fa lei. E non è esistito nessuno e mai esisterà una persona che si tocca il pizzetto come sta facendo lei qui ora. Ricordatevi di questo, questo vi restituisce innanzitutto la vostra unicità, la vostra bellezza. Riappropriatevi anche di questo. Non esiste nessuno, ma proprio nessuno che possa scrivere la vostra storia personale. Se voi doveste scrivere un libro sulla vostra storia, su di voi, chi lo scrive? Chi lo può scrivere? Ciascuno di noi. Non ci sfugge sta roba. Noi non siamo la cultura, io so come può essere scritta in modo autentico e autoriale. Sapete cos'è autentico? E cos'è la parola autenticità? Rispecchia esattamente in quello. Essere autore della propria esistenza, autentor, essere autore della propria esistenza. Il vostro libro, chi lo sta firmando? Chi lo sta scrivendo per voi, il vostro libro? Noi stessi. Ecco, riprendetevi atto di questo, riprendetevi possesso di questo e ricordatevelo quando incontrate un'altra persona, perché la sua storia la deve scrivere l'altro, la deve scrivere lui, vogliamo mettere noi la firma nel suo libro. Tante volte lo facciamo, anche perché lo hanno fatto con noi, Valeria, va detto, no? Tante persone hanno messo mano nella nostra storia personale, a scriverci pagine della nostra storia. Ok, ma la vita continua. Ricordatevi però che si è sempre in tempo di riprendere a essere autori della propria esistenza. Questo è molto bello nella poesia, in termini antropologici, sociologici, per il nostro lavoro, via. Ricordiamoci di questo, ok? Dunque, no, quando parliamo di cultura, e quando parliamo di conseguenza anche di intercultura, mettiamo a fuoco chi si incontra, le culture o le persone che portano una qualche cultura. Non si incontrano le culture, nessuno mai ha visto incontrarsi due culture, si incontrano le persone che hanno interiorizzato, che si sono nutriti in un modo unico, irrepetibile della propria cultura. Se voi due, mi sbaglio, siete, lei è? Alfred. Ok. Costa d'Avorio. Da Costa d'Avorio. Anche lei? Mi, sì. Okay. E il fatto che voi due siete nati nel medesimo paese, cioè, mi dà per scontato che, vabbè, parlano francese. E il dialetto poi. Ma poi parlano le trecine, poi piacerà il calcio, cioè, non posso... Anche se fossi fratelli, ma chi l'ha detto? Cioè il tuo libro è il tuo libro, il tuo libro è il tuo libro, no? Ok, non si incontrano le culture. Voi vi dovete, noi ci dobbiamo fare una idea di... Ok. Allora, cultura è persona. La cultura, ok, esiste... Allora, vi dico una cosa, esiste il dato macroculturale che può riguardare un gruppo. Intendo che, intendo dire, se arrivo in Italia... Presumo che mi troverò con un codice linguistico che si parla, l'italiano, no? Perché la lingua fa parte del dato culturale. ok, non posso essere così stolta di pensare che arrivando in Italia mi trovo con le persone che parlano in cinese, no? Cioè qua immagino come poi Giulio parla l'italiano che ha introiettato, che fa parte del suo vissuto personale, della sua educazione, della sua istruzione, delle sue affezioni letterarie, dei suoi suoni, la sua, è un altro paio di maniche, ma perché Giulio e Peppe parlano lo stesso modo, lo stesso accento, usano lo stesso linguaggio? No. Allora, quello, la lingua è un macro dato sicuramente, come parli la tua lingua, e diventa un dato di cultura personale, la cultura individuale. Allora, dove vi voglio portare? Per la nostra analisi, mi interessa che voi teniate in considerazione, dobbiamo correre, che vi ricordiate di questo, che non si incontrano le culture, ma si incontrano le persone che portano le culture. E la cultura, come la persona, come l'individuo, dunque come l'identità, non sono pietre, mutano, cambiano. Ve l'ho detto, vi ho detto il fatto dei tablet, no? Insomma, questo è un dato culturale. 30 anni fa, 40 anni fa, nessuno si sognava di stare... Cioè, questo è un gesto che oramai tutti conoscono, no? Credo, buona parte. No, i selfie, eccetera. Ma quanti anni fa questo? Cioè, che cosa? Beh, capita spesso di vedere i bambini piccoli che sui libri provano a allargare. Provano a allargare. O bambini piccinissimi, sì, nelle scuole. Che fanno così. Quello è un dato culturale. Che no. Cosa vi sta a dire questo? Cosa vi sta a dire questo? Che la cultura si evolve. No? Bastano poche cose. Cioè, si evolve, non è una pietra, è come, così come accade con i sistemi, accade con le persone. Da quando io sono inciampata, io uso molto i tacchi, sono inciampata, mi sono fatta male, preferisco camminare con i tacchi bassi. Un micro dato culturale. Com'è così altre cose? Dunque, vi chiedo di fare questo esercizio, no? Dunque, le persone. Noi abbiamo fatto una discussione a proposito di questo, sì. Perché non lo so, una dei miei colleghi ha detto che magari si parla cultura araba è unica, ma non esiste che una cultura araba, cultura maghrebina, cultura marocchina. Già nel Marocco il sud non è come il nord, questo quartiere è diverso dall'altro, una famiglia è diversa dall'altra, quindi è impossibile di parlare in generale di una cultura, di un paese, di una regione. Come hanno fatto questo? Sì, sì, questa riflessione prima. La diversità, diciamo. È individuale, forse, una persona. Però c'è qualcosa che unisce. No, c'è qualcosa che unisce, ma ricordiamoci di una cosa. Quella cultura li vedevo più, scusate, anche adesso sicuramente sono cambiate di idee anche mie, però la cultura le vedevo anche in generale, esempio il modo di mangiare, le cose che mangiamo, per me anche per il nord e il sud non cambia. Cioè anche i vestiti, esempio, nelle feste di matrimonio, nelle feste questo, comunque c'è un tipo di vestiti che mettiamo uguali insieme. Per questo cioè, dico anche che c'è nella cultura, nel piccolo suo, c'è anche cose in comune che noi come facciamo. No? Quello io guardate, quello che state dicendo è giusto. Io difatti io la mia riflessione non va per sottrazione. Non voglio togliere nulla per quanto riguarda la cultura a quello che state dicendo. E sto aggiungendo. Che cosa sto aggiungendo? Io dico che a quella riflessione che riguarda il gruppo manca qualcosa, perché è una storia incompleta. Chi completa la storia? Il singolo. Perché è vero che in Perù si parla spagnolo, è vero che in Perù le persone hanno tendono ad avere i zigomi alti piuttosto che un colore ambrato, piuttosto che si mangiano certi cibi, eccetera. Tutto quello mi appartiene, tutto quello mi appartiene. Ma io ho i capelli un po' più chiari, ho vissuto in Europa e negli Stati Uniti, non ballo, non so cucinare e via dicendo, mi piacciono certi cibi, certe musiche. Quel dato individuale completa la storia, altrimenti è una storia incompleta se noi ci limitiamo a interagire con gli altri unicamente con la informazione che riguarda la cultura, quel grande dato. La storia la completa è dato personale. Ok? Io, vabbè, no, se io, nella pratica poi io penso che è pure rischioso perché se si usa un contenitore più grande c'è il rischio che qualcun altro dentro ci metta quello che vuole. Difatti, la io adesso faccio invece una... Invece così abbiamo anche la responsabilità. Bravo. Noi, e perché il rischio è che se c'è solo la C grande qualcun altro ci mette una cosa che a me non sta bene, e quando io sento dire si dà il pretesto a qualcun altro di dire la mia cultura è migliore della tua, qui ci sono meglio, prima certo. Delle persone, poi qualcun altro, e a me questa cosa qua non... Certo, certo. Come vedete, come abbiamo parlato sin dall'inizio, questo esercizio di spostare il focus, non l'attenzione, la lente di ingrandimento al piccolo, rende le cose, da una parte, ecco, dai, essendo più piccolo è più maneggevole, nel senso che la dimensione, cioè uno, più gestibile. È più gestibile, una fatica. È una fatica perché è vero, essere uno a uno è più gestibile, però significa che, e lo vedremo adesso, non è una cosa che puoi fare solo con una persona, la devi fare con quelli che sono il gruppo. Sarà più chiaro tra un poco. Ma l'esercizio, lei dice la mentre mesce. L'esercizio risiede esattamente in questo, intanto di deporre la vostra attenzione sull'esistenza del completamento del dato culturale, dell'idea di cultura nella storia personale. Tutto quello che sapete della cultura, su qualsiasi cosa vi venga da informarvi sull'altro, va benissimo anche su voi stessi, ma il dato lo completa la storia personale, ok? Solo per semplificare quella cicci. Andiamo veloce su multicultura perché mi interessa, per arrivare alle microrelazioni, quelli ultimi due termini. Sì, quello dove, dove ho trovato io più difficoltà, certo. di fare la differenza. Certo. Allora, su multicultura, e su questo vado a gamba tesa, perché sulla multicultura c'è da essere chiari e anche molto spicci. La multicultura è un dato. Dunque è lo stato delle cose. Nella multicultura non c'è un piano necessariamente di relazione, è la coesistenza. Perché dico di dato? Perché la contemporaneità, no? La contemporaneità significa che sullo stesso piano ci possono essere vari elementi. Vogliamo chiamarli comunità, gruppi, maschi, femmine, omosessuali, eterosessuali, disabili. Persone che vengono dall'Ucraina, del Perù, da Salerno e dal Mali. Benissimo, se questi non entrano in relazione, noi stiamo parlando di una realtà multiculturale dove di dinamico non c'è nulla. Uno può campare fino alla fine della propria esistenza senza mettere in relazione questo con questo in questo modo, piuttosto che con questo, complicandosi con questo. Quindi è sbagliato quando noi diciamo, per esempio, Milano è una città multiculturale. Milano è una città multiculturale, ma quello che è sbagliato è attribuirle un valore positivo a questo, c'è una ricchezza di questa interazione. Se non c'è è il punto della multiculturalità, intanto, amici, è il dato di fatto della società odierna. E non è un dato che non cambierà, anzi che si afferma, è il dato. E semmai è il punto di partenza di qualsiasi cosa venga successivamente. Che la scuola sia multiculturale sta dicendo semplicemente che c'è una partecipazione plurima, no, di diverse culture. Maschi, femmine, alti, piccoli, magri, grassi, bambini che vengono da una parte, bambini che vengono da un'altra parte, multicultura. Cosa vuol fare il preside con questa multiculturalità è un altro paio di maniche. Lo dico sempre, io mi sono confrontata nel mio lavoro anche con chi decide politicamente, con i decisori, no? Con l'assessore, col sindaco, col tale, che molto fiero mi diceva, sì, ma non la nostra città qua, la nostra è una città multiculturale. E quindi ma c'è interazione tra di noi. E dunque la domanda che viene è, e dunque? E adesso che farete? No? Perché l'idea è questo, e questo voi dovete essere vettori, voi dovete insistere con modi, ma dovete avere la caparbietà di far passare ai vostri interlocutori che nella multicultura è il punto di partenza, che la multicultura, se si convive con regole rispettuose come in alcuni stati del mondo, può produrre ricchezza economica perché c'è una collaborazione commerciale eccetera, ma non produce ricchezza filosofica, non c'è sviluppo di creatività se non c'è una relazione. Dunque nella multicultura, se l'ambulatorio è multiculturale, è il punto di partenza per intraprendere azioni interculturali. La multiculturalità unicamente dice che dei 100 utenti, 40 vengono di qua, 10 vengono di qua, 5 di qua, dopodiché la domanda è, ok, che si fa? Dunque, sulla multicultura non c'è dinamica, lo stato sono numeri. Siamo insieme di... Fatta premessa che anche noi, anche le persone, il singolo individuo può essere un soggetto multiculturale, no? Perché ha vari strati, cioè uno nato in Marocco, ma poi si è trapiantato in Francia, poi si è sposato a Salerno, poi no, e via dicendo. Bene, arriviamo a interculturalità e intercultura. Interculturalità e intercultura. Sulla interculturalità, sulla interculturalità ho trovato più o meno, è la parola che crea più difficoltà, tra quelle più tra intercultura e interculturalità c'è sempre da lavorare. Avete tirato fuori che sia un agire, che sia un movimento, un'azione, no? Dunque sicuramente la idea che vi dà la interculturalità l'avete resa una parola che dinamica. Sta in movimento, dinamica. Questo mi dice che voi avete una buona sensazione, insomma, che state là vicino. Io ho sentito nel vostro, nel mentre lavoravate, qualcuno che diceva, secondo me è un atteggiamento. Ecco, atteggiamento è una delle parole che può essere utilizzata. Vi spiego meglio. La interculturalità è una parola che compare già, non ci vuole, nel glossario, no? Nei discorsi e nei programmi di alcuni stati, di alcuni luoghi dove l'immigrazione, dunque dove la composizione della società è cambiata da molto tempo, dunque, il Canada piuttosto che la Svizzera, piuttosto che il Belgio, e viene inserita perché stanno già in un momento differente. È dunque interessante vedere che cosa stanno facendo. Non si deve comparare, non si può comparare, perché stanno in un altro momento della loro storia. Noi siamo in un altro momento, siamo né indietro né avanti, siamo in un altro momento storico, punto. L'Italia vive da un po' di anni l'immigrazione e deve prendere confidenza ancora con alcune cose, su altre arriva un po' in ritardo. Però l'interculturalità, che sembra così essere in avanti, no? Nei discorsi, in realtà viene da molto più lontano, nel passato, dai classici, dai padri del pensiero, dai greci. L'interculturalità potrebbe essere definito come un atteggiamento, un qualcosa che permea il modo di essere, che viene interiorizzato, che ha qualcosa di spirituale quasi, no? Che va a trascendere. Mi spiego meglio. I greci avrebbero definito la interculturalità con questa parola, tecne. Tecne. Ed è molto interessante, amici miei, che dal latino e al greco, per parlare di questo, si abbia utilizzato tecne, la tecnica, e ars, l'arte. Guardate che interessante. E che insieme rendono molto bene di che cosa si tratta la parola interculturalità. Cioè, sapete cosa dicevano i greci da questo, della tecne? Cos'è la tecne? La tecne è quell'insieme di regole, la regola, no? Le regole che si apprendono, si imparano, si devono conoscere, si devono imparare con l'unico obiettivo di dimenticare. Wow. Lui ha sbarrato gli occhi. Sì, voi mi direte, ma questo succede? Ma come, uno impara una cosa per dimenticarla, e che è sto fatto? Cioè non è che così che funziona, uno impara una cosa per ricordarla. Vi spiego cosa pensavano loro, con un esempio. Che si cambia, signora. Sì, siamo su questo. Ma loro utilizzano una parola molto bella per descrivere questo processo di cambio e modifica che dice lei. Vi faccio un esempio così lo comprendiamo bene tutti. Quando ho imparato, o quando si impara a giocare a tennis, immaginiamo che dobbiamo imparare a giocare a tennis tutti quanti, ok? E mo, domani ci troviamo giù e ci abbiamo una persona, il maestro di tennis, che viene vicino e dice: ok ragazzi, allora oggi impariamo il rovescio. Dunque dovete mettervi così, dovete abbassare, mettere il capo così, mettere la mano e fare 1, 2, 3. No? Tutti noi ci dovremo mettere con la racchetta. Fare così, 1, 2, 3. E dovremo praticarlo una volta, due volte. No? Una volta, due volte, un giorno, una settimana, magari un mese. Io che sono, non so giocare nulla, potrei impiegare 3 mesi a imparare il rovescio. Ma per impararlo mi dovrei imparare la regola del maestro, no? Che mi dice: guarda, ti metti così e devo ripetere 1, 2, 3, poi trovi il tuo modo. Fin quando un momento, in un momento, non devo più raccontare, non devo più fare 1, 2, 3, perché il gesto parte. Il gesto, ecco, voi diresti: ah, diventa automatico, amici. Diventa interiore, che è differente, che è più ricca come parole. Sapete perché? Perché quando fate così e non dovete più dire 1, 2, 3, la regola, la tecnica c'è tutta, tutta. C'è tutta, ma non c'è più. Perché non dovete più ripeterla. L'avete dimenticata. L'avete dimenticata perché l'avete interiorizzata. Interiorizzata, Giovanna, pure per te. Interiorizzata, pure per te, ho detto, pure per te. Fa parte di te ormai. Brava, perché quello che dice l'aspirazione dei greci, cioè dei padri della filosofia, non era darci delle regole perché noi diventassimo delle macchinette meccaniche che ripetono, ma l'idea era imparare, no? Apprendere una regola perché possa trasformare il nostro essere. Quando lei parla di cambiamento, di modifica, qualcuno ha detto di trasformazione, di atteggiamento, stare in relazione con la cultura dell'altro, mettendo sempre a fuoco che non si incontrano le culture ma si incontrano le persone, che cosa può significare? Imparare, avere un'attitudine, avere un atteggiamento, avere il modo di essere in relazione con l'altro, ma che è un modo, un'attitudine, un atteggiamento di essere in relazione, che non è la gentilezza o la buona maniera o la cortesia. Quelli sono moti dello spirito, va benissimo, ma io sto parlando di tecnica, modi di essere con l'altro, che prima si imparano, ed è tecnica, c'è rigore lì. Noi parliamo di ascolto, di empatia, di dialogo, amici miei, non sono parole, si imparano e si praticano, come si impara a dare i calci di rigore, come si impara qualsiasi cosa voi avete dovuto imparare nella vostra vita, è servito qualcuno che vi dia la regola, o un qualcosa da dove prenderlo, e puoi praticarlo, le tabelline, le avete lette una volta e imparate? No, adesso dovete farvi le tabelline ogni sera per ricordarvele? No. Io sì. E questi sono casi che raggiungono, insomma, sfiorano. Ci siamo? Ho appropriato. Dunque, appropriato. Appropriato. Diventa, io vi suggerisco utilizzare la parola interiorizzare, perché immaginate proprio questo, no? Che la regola diventa interna, diventa parte vostra. E lo scopo dei padri, insomma, della filosofia era poter cambiare l'essere. Perché? Perché se l'essere, no, che permea, che agisce, ha un atteggiamento interculturale, dunque l'interculturalità come quell'atteggiamento interculturale interiorizzato. 1, 2, 3, si conosce, si pratica. Poi la regola si dimentica, ma rimane l'atteggiamento. Ma a questo punto, che atteggiamento devo poi interiorizzare? Vi voglio presentissimi tutti, eh? Questa la passiamo perché non abbiamo tempo. Quale idea di intercultura? Quale idea di intercultura? Sì, ce la facciamo. A questo punto, che idea di intercultura devo interiorizzare? Io ho avuto la possibilità di studiare con lei, essere assistente sua, dunque una delle mie maestre, ancora in vita lei, anziana 8 anni, Martina Della Presella. E lei, 1000 anni fa, praticamente nel 1996, già diceva queste cose, dunque lungimirante avveniristica. E per le mie ricerche, le ricerche del mio gruppo, le sue riflessioni sono state il filo, il punto di partenza di grandi stimoli che poi mi hanno portato a immaginare anche nel nome l'idea di microrelazioni. Ma da dove parto? Martina Della Presella diceva, io a questo punto intercultura, lei aveva un'idea di intercultura brillante secondo me. Madame diceva, la intercultura sai cos'è per me? È lo scambio tra due soggetti che si attribuiscono mutuamente un senso in un contesto di volta in volta definito. Wow, è bellissima detta così, una figata, eh? Ma che voleva dire? E perché mi sono, come direbbe mio figlio, perché mi sono ingrippata nella sua definizione? Perché sono tornati indietro a ricercarmela? Per questo, vedete? Per queste tre cose che io ho sottolineato, ma soprattutto per questo, perché Martina Della Presella dice, sai cosa ti dico, sai su cosa è secondo me l'intercultura? E lo scambio, e daje, no? Lo scambio, l'interazione tra due soggetti. E quando Martina Della Presella parla di due soggetti, non ne sta utilizzando una metafora, dice proprio due. Dice, sai che ti dico, l'intercultura, sai dove si realizza? Nello scambio tra uno e uno, due soggetti. E anche lì, ecco, questo esercizio che abbiamo fatto prima, no? Questo zoom, ci rimette al centro della scena non l'intercultura, come abbiamo pensato anche noi come cultura, no? Se dovessimo parlare di intercultura nei termini che abbiamo riflettuto sulla cultura, diventano questi due mammut, no? La cultura che incontra l'altra cultura, ergo l'intercultura. No, dice Martina Della Presella, sai che ti dico, l'intercultura è proprio quella roba, quello scambio che si realizza tra due soggetti, dunque non tra culture, dunque si incontrano i soggetti portatori di cultura. E sapete cosa dice in questo senso? Che in questa mattinata la mia possibilità di avere una relazione interculturale, ergo di creare, di fare intercultura, si realizza praticamente in 1, 2, 3, 4 e 16 possibilità. Alla prossima. Buona vita. 16 occasioni. Ed è bellissimo, ma è una fatica. Sarebbe molto più semplice fare 1, 16, no? O i magrebini e gli africani. No, e gli africani e i sudamericani, o gli immigrati e gli italiani, più figo così, più semplice. Allora, quando lei pensa, quando lei dice, l'intercultura si realizza, e questo è bellissimo, questo è quello che a me mi ha fatto uscire mi ha dato il là per la ricerca e proprio vede il numero 2. È una faticaccia, Giul, è una fatica, perché significa che quando noi abbiamo come obiettivo dal piano di servizio dell'ASL, piuttosto che dal consorzio, piuttosto che della prefettura, promuovere la inclusione sociale, una fatica o l'intercultura, il clima interculturale a scuola, significa che l'insegnante deve mettersi in testa che se sono 30 bambini in aula, la sua realizzazione, la sua possibilità è uno, non uno a 30, uno è uno, è uno è due, è uno è tre, è uno è quattro e così via. E questo naturalmente rimette un'altra volta in campo la parola responsabilità, potere, tempo anche, no? Perché è più lento, è più complesso. Ma chi l'ha detto? E il contesto chiede altro. E il contesto chiede altro. Allora, intanto, come vedete, quando parla dei due soggetti, vi chiedo per favore che rimetta in atto questo, che vi faccia riportare a casa che quando parliamo di paroloni che sono astratti, l'intercultura, come la cultura, come l'inclusione, come la cittadinanza, come l'integrazione che voi avete anche chiamato in causa, sono un qualcosa di astratto che diventano carne, che diventano reale e vero tra le persone, nell'interazione uno a uno, la quale non ci si scappa, ma ci dà la possibilità. Che si attribuiscono mutuamente un senso. Qui gioco a casa, perché questo gesto ancora una volta si introduce, no? Torna. Questo attribuirsi mutuamente un senso e sta a dire che nella relazione con l'altro, e dunque nella relazione interculturale con l'altro, noi dobbiamo smettere di prestare attenzione al dato dell'altro. Cosa ha fatto l'altro, da dove viene, come viene, è maschio o femmina, come parla, come l'altro. Zero, lo vedi come zero. No, io devo, guardate, è anche strategico. Cosa sia l'altro? È un enigma. Lo abbiamo detto prima. Perché uno di noi è figlio della persona. Uno degli errori, una delle abitudini degli operatori a tutto campo e prestare molta attenzione all'altro e poca attenzione a come io mi pongo nei confronti dell'altro. Perché ricordatevi che così come l'altro, no, porta la sua storia, il suo dato culturale, tutto quello che vuole, anche noi siamo un enigma per lui. Ma chi l'ha detto che, cioè, perché io sono nata in Perù e lei è nata in Italia, no? Cioè, Giovanna potrebbe dire che il soggetto culturale, colei che porta una qualche cultura, sono io perché vengo da lontano. No, anche lei per me è un enigma, sarà pure nata in Italia, ma anche lei è straniera per me. Da scoprire. Allora, un difetto, cioè un'abitudine proprio culturale, professionale che si ha nell'ambito degli operatori, e prestare una attenzione unidirezionale, no? Solo sull'altro, tant'è che molti, anche corsi di formazione non ci vuole, sono concentrati ad informarci su come è l'altro, da dove viene, cosa parla, cosa mangia, la sua religione. Noi dobbiamo avere una informazione di base, ma lo scambio è un'altra cosa, amici miei. Se noi concentriamo unicamente la informazione, cioè la capacità, le competenze dell'operatore in conoscere i dati dell'altro, l'operatore non si includerà mai nel processo. Anch'io nel mio fare condiziono il tuo agire. Cioè se noi entriamo nell'ottica che lo scambio e l'interazione fa di noi anche un prodotto dell'altro, noi diamo informazione all'altro solo nel nostro essere così. Dunque ricordiamoci di questo, è un contesto di volta in volta definito. Anche qui il contesto parla della situazione, e il contesto di volta in volta definito può molto incidere nel dato interculturale. Cosa intendo dire? Parlavamo del potere questa mattina, no? Un contesto dove qualcuno dà qualcosa, un altro, è un contesto, è un luogo, è una situazione già di squilibrio che può condizionare la relazione. Qui chi eroga un servizio, anche se non lo volesse ammettere, ha un potere contrattuale maggiore a quello della persona che riceve il servizio. E anche voi ne avete un potere nei confronti di entrambe le parti, perché in alcuni casi voi siete la voce, proprio materialmente la voce dell'altro, la voce dell'altro. E voi potesti non solo tradire, metaforicamente parlando, ma tradurre, chiedo scusa, ma tradire a fin di bene, no? Come diresti, come diremmo tanti di noi, a fin di bene, perché così sta roba la risolviamo. Perché lui non sa come stanno i fatti, né lui né magari il medico, secondo noi. In quel contesto, schiacciati. Sì, e si trova schiacciati. Dunque, il contesto può condizionare, ma il contesto anche rende favorevole la possibilità di rendere reale l'intercultura, perché il contesto, se noi lo immaginiamo anche lì come un universo largo, una lana, no? Sta cosa enorme ci sfugge dalle mani. Immaginate il contesto come situazione. Non voglio fare un gioco di parole, ma la situazione, questo è un contesto, ok? Il contesto dell'aula è un consorzio. La situazione è questo. La situazione è questo. Cioè la situazione è tempo, spazio. Sembra complesso. La situazione sono tutte le possibilità, tutte le volte che voi vi trovate singolarmente a ripetere magari la medesima e il medesimo atto, la medesima situazione. Andrò ancora più nello specifico. Cambiamo aria? No. No, mi sa che... Sì. No, aspettate, dici. C'è un... Che sono? 37. Ok. Io non ho detto niente. Ok. Allora, a partire da quelli, facciamo una... Dobbiamo arrivare alle microrelazioni, sennò veramente rimaniamo. Io vi saluto. Giovanni, buon lavoro. Un abbraccio circolare a tutti, ci vedremo presto. Ciao Giovanna, grazie. No, mi aspettiamo. Arrivederci, grazie. Ciao. Quindi, Rossana, che differenza c'è tra intercultura e interculturalità? Brava. La mia è un'azione quella ultima. L'intercultura è un modo di stare in relazione. Aspetta, è un'attività. La intercultura è un modo di stare in relazione. Che può essere fatta di molte azioni. Ragazzi, le parole sono importanti. Ogni cosa ha il suo nome. L'intercultura, ripeto, come dicevo questa mattina, non ha a che fare molto con la cultura. No, c'è più il problema su intercultura e interculturalità. L'interculturalità è la pratica, è l'atteggiamento. Sarebbe l'azione che fai. È l'atteggiamento interculturale nelle proprie relazioni. Voglio dire che sentite la parola spiritualità? Sì. Ok? Spiritualità, interculturalità, che cosa vi dice di simile? Che cosa è la spiritualità? Vivere in un certo modo la relazione con le cose, con le persone. Io sono una persona di grande spiritualità, ad esempio, no? Potresti dire, che cosa significa essere una persona che ha una grande spiritualità? Devo spiegarti di più? No. Perché se io ti dico che ho una grande spiritualità, tu comprendi sicuramente come sono in relazione alle persone, a Dio, alle cose, agli oggetti. E così? E così? Ok. E così? Se io vi dico, io sono atea. Io sono atea. Vi devo spiegare di più? No. Voi capite che il mio rapporto con Dio, con la religione, con le cose, è di un certo modo. È una dimensione quasi spirituale. Dunque l'interculturalità è aver interiorizzato e avere dentro di noi, come una regola dentro di noi, che si muove in modo interculturale. La interculturalità è avere quasi l'intercultura come un atteggiamento filosofico, di relazione, spirituale, se vuoi. Che cosa intendo per interculturalità? Vivere con fare interculturale, vivere l'interculturalità significa essere in ascolto delle persone, riconoscere le differenze, aperto. Non giudicare, questa è l'apertura, no? Dunque la interculturalità è una parola che ha a che fare con la filosofia, con l'atteggiamento dell'animo, con un modo di vedere le cose e il mondo, che pratica l'intercultura. Cos'è l'intercultura, come mia proposta? Allora, pratico l'interculturalità perché ho fatto mia l'idea dell'intercultura che mi mette in relazione uno a uno con le persone e mi concentro su quello che accade uno a uno con le persone. E dunque possiamo dire che interculturalità è abilità di avere una relazione intraculturale. Bravo. Abilità, atteggiamento. Ricordatevi questo, amici, l'esempio della racchetta di tennis, fatelo proprio. Allora, che cosa significa interculturale? essere uno scambio uno a uno. Lo abbiamo detto, no? Quello abbiamo detto per intercultura. Invece di immaginare 1, 2, 3 della racchetta di tennis, immaginate che voi, che ognuno di noi pratica la relazione interculturale, dunque sta continuamente a imparare, prima impara che la relazione con l'altro è uno a uno, che devo prestare attenzione a quello che fa l'altro, che devo prestare attenzione a quello, a come io mi pongo con l'altro, e devo prestare attenzione al contesto. Questo come regola, invece di imparare 1, 2, 3, se noi impariamo un modo di stare in relazione con l'altro, in un momento determinato non dobbiamo più ricordarci di allora adesso io mi devo ricordare che devo ascoltarti, poi tu mi ascolterai, e che devo prestare attenzione alle singole piccole cose che accadono. Tanto lo facciamo come le tabelline, come i congiuntivi. Avete presente i congiuntivi in italiano? Ci sono tantissimi italiani che non parlano bene il congiuntivo, anche politici. Anche politici, no? Se io sapessi, io piacerebbe. Okay. Quando si impara il congiuntivo in una lingua, non lo si dimentica più. Intendo dire che se impari il congiuntivo, non è che impari bene l'italiano al lavoro, poi vai a casa e parli male. No, quando l'ho imparato, via. Come guidare la macchina. Lo usi sempre. Come guidare la macchina. Immaginate l'intercultura come un modo di stare in relazione che si deve imparare, si deve praticare, e solo dopo che si è interiorizzato non ci devi pensare più, perché ti viene in automatico. Spontaneo. E non lo fai solo al lavoro, lo fai nella tua vita. Questo dico. E questo trascende l'interculturalità come un modo di fare. Imparare a guidare la macchina, bravo. O imparare il congiuntivo. Dicevo Giulio che imparare a avere una relazione interculturale, dunque permearsi di una interculturalità, è come imparare a parlare bene il congiuntivo. Se lo impari, non è che parli bene al lavoro e poi vai a casa e sei sgrammaticato. Se lo impari, lo usi sempre. L'intercultura, una idea di intercultura in questo senso, no? Uno a uno, che prevede lo scambio, che fa attenzione al singolo contesto e situazione, lo impari perché ci serve per lavorare, via. Ma poi te lo porti a casa perché? Perché se tu devi parlare con tua fidanzata, la fidanzata è una straniera, cioè è una strana, in quanto strana è la straniera, anch'io lo sono, no? Mio figlio. Cioè l'altro, quando siamo in relazione con l'altro, ci serve alla fine per campare nelle nostre relazioni quotidiane. Questo si è capito? Sono chiara? Sono chiara? Dunque, e arriviamo al rush finale. Questo 2 della relazione interculturale di Martin Abdelapreselle poi è stato il punto di partenza di una serie di ricerche, di contributi teorici fatti nel tempo da tanti grandi, da diverse discipline, dalla sociologia, lei è psicologa e sociologa, e Cohen e Merrick, che è ancora vecchiarella, è ancora viva, lei ha lavorato molto con gli operatori soprattutto, e anche lei quando parla del suo approccio di shock culturale, il shock culturel, cioè un metodo molto interessante, lui parla di una relazione dove si parla ancora di un processo di interazione, no? De uno dell'altro e dell'opportunità di fare attenzione a quello che l'altro rimanda, mi rimanda di quello che sono, no? Dunque anche Cohen a distanza di tempo riporta l'attenzione su quel uno e l'altro e su quello specchio che si riesce a essere. Goffman, che è uno dei padri della comunicazione, introduce un'altra parola che, se vedete bene, si può collegare a quel numero 2 di cui parlava Martin Abdelapreselle. Goffman parla dell'interazione faccia a faccia, e anche là lui non è che dice l'interazione faccia a faccia a così, no, lui dice proprio faccia a faccia, cioè uno a uno. E lui, la sua ricerca, i suoi studi si concentrano proprio a quello che accade quando una persona è di fronte all'altra, proprio così. E dice una cosa che ci riempie di speranza, ma fa venire anche il freddo al sangue. Perché Goffman dice, perché presta attenzione a quel uno a uno, a quel faccia a faccia? Perché ci ricorda che l'interazione faccia a faccia non è mai solamente una forma di comunicazione. Dunque ricordatevi, amici, che quando state di fronte all'altro non ne sta accadendo unicamente una comunicazione, perché potrebbe stare succedendo molto di più, ma ci ricorda che quando siete uno di fronte all'altro, forse non ne sta accadendo nessuna forma di comunicazione. C'è una, si chiama ambiguità. Intendo dire che noi possiamo stare uno di fronte all'altro e pensiamo di stare in relazione, no? Di avere una comunicazione. Magari non è successo nulla, però tu lo pensi, o magari io lo penso. O magari io sono di fronte a te e sta succedendo qualcosa di molto più importante per me, cioè che va molto più, ha molto più valore della comunicazione, e forse tu non ti sei accorto. Cioè ricordatevi di quello, che quando siete di fronte a una persona può sta succedendo una cosa o il contrario di quella stessa cosa. Voi potete credere di avere avuto un dialogo, una relazione, e forse non è successo nulla, o forse è successo un patapata molto più importante. E Goffman si concentra su quello e dice una cosa molto interessante, che l'interazione faccia a faccia, come diceva lei, ha un'altra possibilità. Che proprio perché faccia a faccia, io e lei possiamo vedere che cosa siamo capaci di fare in questa interazione, perché è proprio questo, faccia a faccia, cioè questo è lo spazio. Se dovessimo recintare, recinto sarebbe questo. E io posso dunque controllare, se vogliamo, guardare i tuoi movimenti, cosa hai fatto, verbale, non verbale, il tono di voce, il tuo calore, anche il tuo odore potrei sentire, no? E dunque in questo senso, come vedete, questo riportare l'attenzione al micro sembra anche strategico. Perché? Perché lo posso vedere, lo posso sentire, è alla mia portata di mano, capito? Ok, e questo dice Goffman. Rancière, Jacques Rancière, che è ancora vivo, anche lui Goffman, no. Rancière si occupa di filosofia politica, un filosofo, e io sono innamorata di quest'uomo, scapperei con Rancière al concreto, perché lui ha questo, questo desiderio così bello, nelle sue ricerche, nei suoi studi, quello che lui annella, quello che lui vorrebbe vedere, per il suo papà di politica, di filosofia politica, ecco, e vedere la politica. Pensate, vedere la politica. Mettiamola così, se noi avessimo fatto questo esercizio, no? Mettendo cultura, politica, anche là avremmo tirato fuori una definizione, no? E guardate, la maggior parte delle persone, di noi persone, quando pensano alla politica, anche là succede questo, che la politica, sta roba qua, no? Sto mammut, sto iceberg, sta cosa enorme, no? Tendiamo, sembra, che nell'immaginario delle persone la politica, qualcosa che si muove in queste stanze, con questi governi, e lui che ha questo desiderio di vedere, cioè il desiderio estetico, cioè vedere la dove sta, dove la prendo? Lui, là, con una riflessione molto interessante, parla di questo. Dice, la politica, sai dov'è? Secondo me, è nell'ordinario, che diventa bello come traccia del vero. Cioè, che vuol dire l'ordinario? Sapete chi sono le uniche creature capaci di fare gesti ordinari, arbitrari? Sapete chi sono? Gli uomini. No, uomini e gli animali, solo che gli uomini hanno il potere della parola. Gli uomini. Dunque lui dice, guardate che bellezza, dice, sai cosa ti dico? I gesti ordinari delle persone sono il luogo dove rendere vera qualsiasi idea tu abbia di politica. Mettiamoci un parolone, la giustizia. Anche là, la giustizia, dove sta? Sta cosa enorme, no? Ma vai a prenderla la giustizia, eppure tutti vorremmo la giustizia, no? Tutti. Ma dove la realizzi? Dove sta? Dove la prendi? Come sta? Come è fatta? Allora lui che cosa dice? Seguendo secondo me proprio il filo conduttore della Presée, di Cohen, di Goffman, dice, ad esempio, tu hai un'idea di giustizia, io ce l'ho, ma sai che possibilità abbiamo noi in questo nostro fare ordinario di renderla visibile noi? In che modo? Il mio modo di agire con giustezza e con giustizia nei tuoi confronti e tu altrettanto nei miei confronti. Che cosa vogliamo pensare? La bellezza, il bene, il rispetto. Paroloni, no? Vai a pigliare, dove sta il rispetto? Come lo prendi? La sua idea di gesti ordinari dice il tuo ordinario gesto di rispetto nei miei confronti e mio nei tuoi confronti, ci dà la possibilità di mettere in vita una creaturetta, immaginatela così, davanti a noi, tra me e lei, queste creature che prendono vita. E allora là, come accade con la cultura che è per ogni individuo, il bello, il senso di bellezza, di bene, diventa vero mediante le azioni che ogni singola persona è capace di agire con l'altro. E qui, anche qui, ho sentito che il gioco, cioè che l'esercizio di, no, questo focus potente sull'azione della persona era molto, molto presente. E lo dice anche in un modo delizioso, non avrei parole migliori. Dice che l'essere umano, poi come fare questo? Lui riflette che l'essere umano è l'unico animale politico che è capace di persuadere se stesso, di cambiare se stesso, che permette a se stesso di cambiare mediante le parole. Guardate che bellezza. Ecco, come se ascoltando le parole, ricevendo le parole, noi dessimo la possibilità innanzitutto a noi stessi, ma anche agli altri, di poter creare il nuovo. Le parole come una carne quasi, cioè noi così come ci sono parole che ci marchiano a fuoco e che non ci dimentichiamo mai, anche se le abbiamo sentite quando avevamo 7 anni e adesso ne abbiamo 60, ce le ricordiamo e ci fanno ancora male, no? Come malefici, le parole possono fare molto male, ma ci sono anche quelle parole, e anche quelle ce le possiamo ricordare, ce le ricordiamo, che come un balsamo, come una guarigione, come una magia, ce le hanno dette e ancora quando ce le ricordiamo ci fanno bene, o no? Certo. Le parole sono, lo dicevano i filosofi, sono creature magiche. Assumo per magia il potere di trasformare le cose, questo libro. Allora il pensiero dice, come possiamo rendere reale una idea di bellezza, di bene, di politica? Mediante l'azione umile, ordinaria, che ogni essere umano può fare, utilizzando che cosa? Il potere delle parole, che sono molto di più che suoni. Arrivo al dunque. Se ne sono aggiunti naturalmente altri contributi. Il discorso di Arendt è sempre attuale, purtroppo. E con questo arrivo alle microrelazioni. Ma lei dice una cosa molto interessante che io vorrei che vi portassi a casa per il vostro lavoro, ma per la vostra vita. La Arendt, oltre al discorso del diritto di avere diritti, dice, ci ricorda che ogni singola azione, ricordatevelo amici, e nessuno ve lo faccia dimenticare e nessuno ve lo tolga dalla testa, ogni azione che facciamo interviene nello spazio pubblico. Che cosa vuol dire? Che non è vero che se avete fatto, che quando fate una cosa, una piccola cosina, che nessuno ha visto dentro la vostra stanza e non c'era nessuno a vedere quello che stavate facendo, no? Di bello, di giusto, di rispettoso. Nessuno vi dica che non vale la pena, nessuno vi convinca che tanto è poca roba. Fosse una piccola cosa, la più piccola, che avete visto solo voi e qualcun altro o solo voi, fatela. Perché anche se non siete in mezzo alla piazza, quella piccola azione fa camminare il mondo nella direzione nella quale voi volete che il mondo cammini. E fatela. Perché ha ragione lei. Perché ogni cosa, ogni volta che voi create bellezza, ogni volta che fate, che siete rispettuosi, che siamo rispettuosi, che siamo onesti, che siamo giusti, che ascoltiamo, noi stiamo dando un contributo a quello che i filosofi chiamano il pubblico, lo spazio. Poi non l'ha visto nessuno, non ve ne importa, abbiate certezza che voi state dando un contributo alla storia, punto. Punto, e dunque fatelo. Vi guardino o non vi guardino, piccolo o non piccolo. Se arrivano altri contributi, però la faccio lunga, da Eraclito a via dicendo, tutte queste riflessioni che abbiamo iniziato dal primo incontro, da il contributo del significato alla prepotente, all'importante presenza della persona, no? Della singola persona in questa questione della relazione, questa slittare il focus dal macro delle strutture al micro della relazione che ogni singola persona ha, porta al mio gruppo di lavoro a tirare fuori questa idea di approccio che noi abbiamo chiamato micro relazioni. A questo punto non vi sfugge perché, no? Perché vede quel uno a uno, quella posizione micro, e che immagina le relazioni come una condizione che sia uguale, che sono relazioni uguali tra pari e che si tracciano in quel qui e ora, quel pantarei di cui abbiamo parlato, che si avvalgono di atti singoli precari, che non sono fondate in alcuna natura delle cose, né garantite da nessuna forma istituzionale. Intendo dire che non ci sono decreti, te ne vai. Con permesso, chiedo scusa. Buona vita. Alla prossima. Ciao. In sintesi, immaginate quando vi ricorderete, e mi auguro che possiate ricordarvi, di che cosa può significare lavorare con un approccio di micro relazioni, e stiamo immaginando un modello, magari un approccio, un modello di azione che si muove a livello della interazione micro tra due soggetti, che deve avere relazioni ugualitarie in questo scambio, che vedono sempre un qui e ora, in atto singoli precari, dunque non abbiate paura di sbagliare, e che possano essere replicati, che possano ripetersi, come nel gioco del tennis, come nel gioco del tennis. Un mio collega dice che è un'occasione per tornare a essere archetipo, no? Nella propria azione. Questa è un po' più complessa. E qui vi avrei raccontato un poco di alcune esperienze, però mi fermo qui. Questo è il 2003, e qua ci salutiamo, questo è il 2003, e a distanza di tempo noi con i miei colleghi siamo tornati a rivedere che queste erano le radici, i semi di quello che poi noi avremmo chiamato microrelazioni. E questo è un intervento molto interessante, per cui ricevemo 5 premi e via dicendo, tutti fuori dall'Italia, ma non è questo quello che vi voglio dire. Vi voglio dire che io vi parlo in modo appassionato di una cosa che è frutto della mia ricerca, naturalmente, e ci tengo molto, ma guardando all'indietro e vedendo cosa è successo in questa esperienza, io so che lì ha funzionato ed era un lavoro, credetemi, da ciabattini, perché abbiamo faticato, ma proprio uno a uno, fianco a fianco, e abbiamo visto che quello che funzionava era darsi esattamente quel senso, quella logica, quel senso da persona a persona. Allora, io sono appassionata a credere in alcune cose, ma io so anche che ci sono problemi da risolvere e che c'è una situazione magari da provare a cambiare. E poiché le cose non cambiano per caso, bisogna iniziare da qualche parte, quello che vi ho portato oggi è una idea da dove poter iniziare. E per iniziare in questo senso non dovete chiedere permesso a nessuno, perché lo potete fare proprio uscendo adesso da questa stanza. Perché non esiste una regola, un divieto o una legge che ve lo possa impedire di avere una relazione, una micro relazione positiva, benefica, di scambio, dove date la possibilità di dare un contributo anche alla storia. Amici, quest'è. Spero di rivedervi. Io vi auguro buona vita, vi chiedo al volo di dirvi una parola, una, proprio una, per valutare a questo punto sia questo incontro. E poi ci saranno delle schede alla fine di ogni modulo, oppure passeremo al numero di sottocorrente. Adesso vorrei sentire veramente una parola, anche una metafora, una figura, quello che vi viene in mente per l'incontro di oggi. Relazione. Interiorità. Comprensione. Voilà. Interculturalità. La più difficile. Interazione. Sospensione. Microrelazione. Sono rimasto senza. Chiarezza. Ok. Sono alcuni parole. Per me arricchezza e poi anche un dispiacere di non vederci, però. Questo non è. Che hai detto? Cioè, quella polmonite, non vederci. Non è detto, quello che molto la.